Come stai? È la frase d'esordio nel mondo. Canto, no, tutto bene. Ho una casa e sto lavorando ogni giorno. Che cosa vuoi che dica? Di cosa vuoi che parli? Liguria. La Liguria è una regione a forma di mezzaluna nell'Italia nord-occidentale. La sua costa mediterranea è nata come Riviera Ligure. I cinque vivaci villaggi di pescatori delle Cinque Terre, così come le eleganti Portofino e Santa Margherita Ligure, si trovano sulla costa orientale, o Riviera di Levante. La costa occidentale, la Riviera di Ponente, ospita Sanremo, una località antica, con un casinò di inizio Novecento e un lungomare fiorito. Pam pam pam! E dopo Sanremo, eccoci! Bentrovati e bentornati a tutti quanti. Bentrovate soprattutto a tutte le donne che ci seguono, in quanto oggi è la festa della donna e noi faremo una puntata sulla Liguria! Quindi auguri a tutti, smarchiamo questa cosa subito. E benvenuti a tutti quanti anche oggi con Fuori dal Comune, finalmente tornati di lunedì, con un po' di ritardo consueto, ma noi siamo come solo 4 minuti però stavolta, sto giro bravi. Sì. Sto giro bravi. Bravi, dai. Sì. Pensavo andassimo in onda alle 20:15, invece alle 20:30. Invece alle 20:30. Quest'oggi siamo stati bravi. Sì, sì, sì. Bravi, abbiamo, dai, detto non sfidiamoci troppo, rimaniamo sinceri. Rimaniamo umili anche. Forse umili. Io pensavo 20:15 perché io essendo sempre in ritardo la gente mi dice sempre di mettermi prima. Forse quello. Okay. Però forse l'abbiamo fatto anche noi, Marzi. Nonostante tutto ce l'abbiamo fatta ad essere qua, ad essere puntuali. Sì. Nonostante i primi momenti oggi in radio sembravano non aiutarci. Questa perché puntata non sapeva da fare. Non stava decollando. Ha rischiato di non esistere praticamente. Esatto. Giustamente i nostri compagni di Radio Zam sono al presidio in Duomo, sì, perché oggi c'era manifestazione, esatto, per la festa della donna, ma la gentilissima Rebecca, grazie. Grazie Rebecca. Ci ha aperto. Sì, e noi rischiavamo di fare la puntata da fuori con i nostri cellulari. Esatto, e invece perché questi siamo noi. Dei ragazzi sinceri e puri, simpatici e evidentemente questa sera molto esagitati, un po' per, sì, l'inizio della settimana. Un po' per Sanremo, siamo stati svegli tutta la notte, tutta la settimana. Io ho tirato, solo una sera non l'ho visto fino alla fine, mi sa quando l'abbiamo visto insieme che poi sono tornata a casa, lì sono venerdì sera, sono poi collassata. Io volevo raccontarvi questa cosa, quando voi siete, perché amici da casa, venerdì abbiamo fatto il nostro, il nostro salotto Sanremo della, sì, radio. E a un certo punto i ragazzi, quasi al coprifuoco, poco dopo, sono tornati a casa. Io a un certo punto mi sono addormentata con Renga che cantava. Sì. Mi sono risvegliata con Renga che cantava e ho pensato, ma che cazzo è successo? Sì, è il giorno della marmotta. E poi ho scoperto che Poretto, questo aveva, no, non lo so, aveva fatto mezza riga senza microfono, gliel'hanno fatta ricantare. Aveva fatto più di tutto. Mezza riga Renga, secondo, sì, me. Sì, no, però vabbè. Comunque, scusate, ricordi... Però vabbè. Ricordiamo le cose fondamentali. Intanto ci volete scrivere? Perché sì che ci volete scrivere. E dove ci scrivete? I nostri contatti. Marzia se l'ha preparata tutta la settimana. Cosa sono? Le coordinate. Le coordinate. Però adesso dobbiamo anche dirle. Le coordinate sono... innanzitutto ci dovete parlare tramite Telegram, questo nostro amico, questa chat. Scrivere. Esatto, questa chat che abbiamo è molto privata tra noi e voi, ci scrivete at radiozam_, quindi trattino basso, chat, ci trovate, ci potete scrivere quello che volete, sapete ormai dopo tutte queste puntate che io sono una fan delle vostre, della vostra realtà. Delle vostre vite private? Sì. Esatto, voglio sapere cosa fate intanto che ci aspettate, so che, immagino che molti di voi staranno aspettando l'Inter. Esatto. Che gioca tra poco, ma io vi consiglio questo, accendete pure la televisione, ma non ascoltate tanto la telecronaca che frega fin là, Tenete Subura sotto Radio Zam, top. Sì, sì, non parleremo dell'Inter, però almeno scriveteci però ogni tanto se sapete degli aggiornamenti, esatto, risultato, soprattutto se ha segnato Lautaro o il magico Eriksen. Saremo il vostro Sanremo, ma simpatico. Sì, che ci vuole poco, ci vuole... visto l'ultima. Quindi, esatto, scusatemi, Liguria. Liguria. Liguria, abbiamo perché? Voluto... Sì, se lo stanno chiedendo, se lo sta chiedendo mezza Italia, sì, perché? Perché no? La Liguria è una regione bellissima. La Liguria è una regione. No, la Liguria è bellissima. È bellissima. Niente, ci siamo presi bene. Ci siamo presi bene. Cioè, tutto questo Sanremo nell'aria, abbiamo detto, vabbè, sai che c'è. Parliamo della Liguria. Parliamo della Liguria. Perché noi non volevamo essere gli ultimi una settimana dopo a parlarvi di Sanremo, perché tutti quanti vi hanno parlato di Sanremo. Avete parlato voi di Sanremo, avete letto di Sanremo, avete visto Sanremo. E quindi abbiamo detto, vabbè, fare una puntata intera su Sanremo a una settimana dall'inizio e non abbiamo quasi neanche più niente da dire. Esatto. No. Prendiamola più larga. Esatto. Facciamo il giro largo. Perché poi, informandoci, tutti quanti abbiamo, cioè, un qualche momento della nostra vita che si incrocia con la storia della Liguria, ok? Beh, sempre, sempre, ovvio, noi di e qua. Poi andando un pochino a spulciare nei segreti della Liguria, avevo scoperto che la Liguria è bellissima. No. Cioè, raga, statemi seduti perché rischierete di cadere dalla sedia. Cioè, esatto. Questo, ma, è un piccolo spoiler. Sì, spettatori dell'Inter, non spettatori dell'Inter, spettatori di Report, tanto inizia un po' tardi, sì, e spettatori di cose altre, sì, e soprattutto i miei preferiti, quelli che hanno l'atmosfera un po' soffusa, il vino, sì, e Radio Zam, e si stanno cucinando una zuppa di farro. Io vi immagino sempre così, lo sapete ormai. Sempre ecco con qua la zuppa di farro. Mi sono arrivate delle foto di gente che sboccia vino e, esatto, zuppa di farro. Zuppa di farro. Ciao Pepi, ciao Susi, vi vogliamo bene. Anche se mangiate la zuppa di farro. Esatto. E, quindi amici, state con noi, come vi avevamo detto, raccontateci delle vostre impressioni su Sanremo e non sulla, anche su quello che volete. Radio Zam underscore chat, ci trovate su Telegram, siamo una chat, quindi ci scrivete solo a noi, cioè non privato. Ci sono altre persone che vedete, esatto, no. Se no ci potete seguire su Instagram, su Fuori dal Comune Stava Preso, tutto attaccato, tutto minuscolo, quindi Fuori dal Comune Stava Preso, perché effettivamente stava così, preso, stava preso. La nostra ironia ormai, mamma mia. Sì, sì, sì. E, niente, io direi che iniziamo col primo pezzo, che non sarà di un ligure, ma no, abbiamo deciso di... Allora, c'erano tanti pezzi, noi siamo dei fan di Sanremo, chi più chi meno, ma tendenzialmente siamo dei fan di Sanremo. Ah, spoiler, non parleremo solo di Sanremo, veramente no, parleremo della Liguria. Direi che vi potete immaginare, pezzo, piccolo capitolino su Sanremo e poi, poi una magia, una sì, magia. Una magia di Liguria che però gli arriva in faccia, nelle orecchie. Ce la togliamo all'inizio, così, così boh, smarcato. E poi andiamo avanti. E infatti questa canzone arriva da lì. Arriva da Sanremo, 1996 o 97 se non sbaglio, mm-hmm, è uno dei momenti che io porto nel cuore come quei momenti in cui Sanremo hanno rischiato e hanno provato a fare qualcosa di non Sanremo. E allora ascoltiamolo. Quindi vi introduciamo con un pezzo favoloso. Ah, non sono i Maneskin? Non no, sono i Maneskin. Ah no? Ah no, no, no, non Marzi sono... fuori. Non sono i Maneskin. E vi lasciamo con Papa Nero dei Pittura Fresca. Mazza. Buon ascolto. Profecía, mina pinta Santa María, y a par con dicha, absolutísimamente no, porque es escrito, dita, tratito de lloraco, y a piobra perdará y tentaco, y cascará y tabú, el penúltimo Jesús será un homo del continente negro, será vero, como mis Italia, ver un papanero, no me parvero, un papanero. Que escolta mi canción in Venecia porque es sentido africano. Sarà vero, dopo Miss Italia avere un papà nero, nome barbero, un papà nero, che canta mi canzon in Venecia perché è sentido africano. Alleluia, alleluia, alleluia. ha visto l'ignoranza intera, ma l'uomo sei duro, col potere compra il futuro, nel sesto senso, assolutissimamente no, perché se scritto ti ho stradito dai oracoli, a piovra perderai tentacoli, e cascarai tabù, col penultimo Gesù e sarà un uomo dal continente nero, sarà vero, dopo Miss Italia avere un papà nero. Un papà nero che ascolta le mie canzoni e me ne siamo perché sei nero africano. Sarà vero, dopo Miss Italia avere un papà nero, non è barbero. Un papà nero che canta le mie canzoni e me ne siamo perché sei nero africano. Sei africano dall'Africa nera, dove ogni giorno che c'è gente che si spara le insegnerà cosa che c'era. Viva la vita con rispetto della natura. Io cado bracci come de mi, io cado ossi come de mi, io zappe parte come de mi, lui si diverte come de mi, insegna e impara come de mi, io ca paura come de mi, lavora e suda come de mi, perché sei nero africano. Sarà vero, dopo Miss Italia avere un papà nero, non è barbero, un papà nero le mie canzoni in Venezia perché sei nero africano. Sarà vero, dopo Miss Italia avere un papà nero, non è per vero, un papà nero che canta le mie canzoni in Venezia perché sei nero africano. Eccoci qua. Beh, che dire, wow. Che pezzone. Chicco wow. Ha cantato tutto il pezzo. Comunque era Mike Buongiorno che, che presentava il Festival di Sanremo del 1997, dove hanno partecipato I Pittura Fresca. Mitici, me li ricordo ancora adesso sul palco, impresentabili, ma cioè talmente impresentabili che fanno il giro e diventano presentabili. Sicuramente più presentabili di Achille Lauro. Ah, incominciamo così? E no, e poi tra l'altro è bellissimo perché la cantavamo ed era una canzone che cioè non era troppo nelle corde di Sanremo. In macchina mi ricordo con mio papà che lui tipo canticchiava questa canzone sempre. Poi dopo era appunto Sanremo e erano anche arrivati, non dico primi perché non erano arrivati primi, però abbastanza in alto perché avevano portato parecchio folklore sul beh, palco. Sì, sì. Sicuramente non potevano passare inosservati. Beh, no, io mi sono divertita tantissimo, forse opinione impopolare, però io mi sono divertita tantissimo con il duetto e gli Extra Liscio. A un certo punto hanno tirato su la balera, sì. E io mi sono divertita molto. Sì, quindi... divertita e Sanremo nella stessa frase forse è un po' raccordo. Comunque... Io mi sono divertita molte volte. Sì. Okay, va bene. Un'analisi che ci portiamo a casa probabilmente da questo Sanremo. Divertirsi è difficile. Divertirsi è difficile innanzitutto. Difficile. E poi c'è una grandissima cultura, secondo me, del... guardare Sanremo completamente disinteressati a Sanremo, ma per criticarlo, cioè mi sembra, cioè per criticarlo comunque per essere parte di quel movimento che non è anti Sanremo, perché raga, cioè tutti quanti ci fa piacere comunque che esista Sanremo, ma per sparare su Sanremo. Vabbè, cioè. Ma perché ci piace. Certo. Ci piace certo. Tanto sì, criticare, sì. Dai, cioè, ci piace. I gruppi d'ascolto, i meme e le chat dei colleghi con gli amici, tutti quanti a parlare di questa cosa qua. Effettivamente la nostra comunicazione per una settimana, per quanto sia una roba raga inconcepibile per noi probabilmente, parlare di Sanremo per una settimana, però vederlo più che altro succede. È il primo anno secondo me che io lo vedo, purtroppo lo dichiaro, tutte le sere. È stato uno shock, cioè mi sento provata. Come diceva Ama, diceva appunto il Sanremo più social di sempre. Esatto, però, cioè, posso lanciare cazzo Ama, però. Posso lanciare una cosa alla nostra chat? Sì. Cioè, o meglio, al nostro pubblico numerosissimo pubblico. Sì. Io voglio adesso, perché a questo punto voglio usarlo anche come statistica pool, che tutti voi ci scriviate in massa su Telegram a @radiozam_chat il vostro vincitore del cuore. Sì. Ma posso dire, possono anche essere artisti che non erano in gara. Sì. Basta sì, che sì. Anche Cesare Cremonini, va bene. Per dire, no, è andato sul palco? No. No. Allora no. Hai detto che non erano in gara? No, in gara, però che si siano presentati su qualche Ok, scusami, non avevo capito bene. Scusami. Tipo, no? Mio padre... Ok, io ce l'ho. Mio vincitore è Michele Zarrillo, che va in onda all'1:30 della finale. Della finale. E a un certo punto, quando pensi che sia finita, lui esce e fa anche un po' la voce all'albano. Cioè, ha fatto tutto un po'. E dice... 5 giorni che ti ho perso. Ok, ci sta, l'abbiamo già fatta. Come qua. Marzi, sentitevi liberi. Sì. Io per dirvi, ho ricevuto una chiamata intorno alle una forse, quando è salita sul palco l'Ornella Vanoni, da mio padre che ci ha tenuto a chiamarmi per dirmi: ma com'è che questa che ha 83 anni canta molto meglio di tutti gli altri? C'è qualcosa che non va, qualcosa che non va. E gli ho detto: papà, hai ragione. Perché e lui non era ancora arrivato Michele Zarrillo. Esatto. E io gli ho detto: papà, hai ragione. E lui mi ha detto: era quello che volevo sentirmi dire. E ha messo: buonanotte, è attaccato. Esatto. Beh, bene, quindi... vincitori morali e vincitori, possiamo fare anche vincitori del trash, perché alla fine, vabbè, è già qualche anno che Sanremo e il trash vanno di pari passo, ma alla fine è l'unica cosa che c'è rimasta in questa vita, Sanremo, in questa non normalità, cioè quest'anno ci hanno tolto tutto. Tutto, vogliamo mettere i violini? Non ce li abbiamo i violini. Va bene? Però se volete ve li faccio io. È venuto esattamente come ce l'avevo in testa, sì. Grazie. E io ho fatto l'autore a Sanremo, cioè, la regia ho fatto anche. Spoiler! Polizia! C'è stato uno spoiler però qui alla mia destra. Sì. Perché ragazzi, non è che noi invitiamo gli ospiti a caso, no. Ok? Non sempre. La maggior parte sembra a caso, sì. Ma il più delle volte non lo è. Sì. E infatti abbiamo detto, parliamo della Liguria. Parliamoci, no? Sì, parliamo della Liguria. Ma chi invitiamo a parlare della Liguria? Qualcuno. Ligure, sì. E quindi abbiamo, insomma... Trovato il nostro ospite che, spoilerissimo, tra le altre cose, ci ha appena comunicato, perché noi manco lo sapevamo, per quanto lo facciamo a caso. Raga, è stato ospite... No, scusate. Autore. È stato ospite a Report. Esatto. È stato autore Sanremo 2014. No? Con la Letizzetto. Fa riflettere. Sì. Esatto. Cioè, pensate che noi l'abbiamo chiamato non sapendo questa cosa. Quindi pensate quanto è interessante la persona che verrà a parlarci circa tra un'oretta, 45 minuti. Sì. Pazzesco. Comunque, stavamo dicendo cose belle del festival, cose brutte del festival. Ok, una testa. Le cose trash del festival. Marzia, inizia te, che tu sei la judge del gruppo. Okay. Allora, cose belle del festival. Cose belle del festival. Difficile questa. Io sarei partita dal contrario. Cioè, secondo me c'è stata poca musica bella. Poca musica bellissima. No, allora, Come sempre appunto, però la canzone, ma ti dirò, io in realtà ci sono cose che mi sono abbastanza piaciute, che salvo tipo? Dicene almeno una. Guarda come la prende larga. Sì. Allora, a livello musicale io salvo i miei amici con la pesce. E va bene. E lo salviamo tutti. Salvo. La gag orrenda. Dammi un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Anzi leggerissima. Vabbè. Dai, bello, bellissimo. Poi mi è piaciuto. No, una cosa, non è possibile che te ne siano piaciute due. Ah, vabbè, questa è della musica, però. Ok, va bene. Delle cose non musica. No, allora, che cosa mi è piaciuto di Sanremo? Mi è piaciuta questa, appunto, componente un po' giovane, un po' indie. L'indie italiano. Esatto, un po' mi è piaciuta. Non mi è piaciuto un po' perché Sanremo è Sanremo, voglio dire, le battute tra Ama e Fiorello per 10 minuti sui peni degli animali non è che mi hanno fatto divertire, per niente. Io salvo il palloncino a forma di cazzo. Sì, però anche lì secondo me l'hanno fatto apposta e non faceva tanto ridere. Secondo me. Ah, raga, scusate, no, vero. In effetti la cosa più bella di Sanremo forse è stata quando Max Gazzè è caduto dentro le sedie. Sì. No, raga, ma tra l'altro il primo giorno io ho pensato, qualcuno cade cioè ci è mancato tanto così che cadesse. Sì. Abbiamo rischiato un sacco di cadute in realtà quest'anno a Sanremo. Ma in Ciampini. Ama lo sa che è il protagonista di Vialecco a Milano? Esatto, lui non lo sa. Credo non lo sappia. Forse non lo sa. Però, vabbè, ecco. Poi io nota di merito... Uh-huh. Lo dico. Lo dillo. Il tempo tecnico di Ibra. Ok. Non Ibra, il tempo tecnico. Che è esattamente una delle cose che io annovererei fra le cose brutte. Okay. Però estremamente televisivo. E che sorriso. Mamma mia. Tocca a me, Sì. Allora, io salvo assolutamente la presenza di Elodie. Solo perché è una fregna? Anche, però okay. È stata, secondo me è stata uno dei contenuti più interessanti di tutto il festival. Mm. Matilda De Angelis la prima sera, super, secondo me. Super noia. No, no, è stata super brava, secondo me. Ma raga, ma il pippone sul limone? Cioè... Vabbè, no, ma quello dai. Non l'aveva neanche detto lei, ma, nel senso. Però ha recitato anche male. Autori, vabbè. Polizia! Vabbè. E poi, super, super, super, la mia cosa in assoluto preferita del festival è stata Lundini. Bah, no, esatto, Lundino io lo amo. Duetto, scusa, con... pensavo che mi dicesse Aiello, non l'avevo no. detto io. Quella non era la cosa musicale. E mentre la cosa più divertente del festival, non la cosa che mi è piaciuta di più, è stata ogni santa esibizione di Aiello. Era tutte. Quello che ci lasciava attaccati alla televisione fino sì. alla fine, sì. anche l'ultima sì. sera Aiello è uscito alle 2:30. Non sarà mica un caso che l'hanno messo in fondo. E eh. noi c'eravamo, sì. noi c'eravamo. Mamma mia, ragazzi. Anche l'ultima Aiello. Sera quanto Aiello sia stato la prima sera ci hai scioccato. Scioccati. Perché abbiamo detto "Ma cosa sì, sta sì. dicendo? Ma aiuto. Perché grida come un pazzo?" E c'è stato proprio tipo un aiuto. Cosa sta facendo? Ma poi cosa sta cantando? E niente, quindi questa secondo me le cose positive. Posso partire subito anche con le cose negative, già che ci siamo. Sì, sì, sì, allora, secondo me la cosa, il momento più basso del Festival di Sanremo quest'anno, la Barbara Palombelli. Vabbè, io manco Barbara Palombelli, sì, che ha fatto, doveva, cioè aveva, lei è arrivata con la missione di fare tipo un discorso, credo femminista, comunque come idea. E poi ha preso una tegola in testa. Sì, probabilmente è inciampata in un gradino, ha preso un microfono sulla fronte, qualcuno le aveva messo qualcosa nel bicchiere, si è dimenticato di prendere le pastiglie, Rutelli gli ha mandato un messaggio e è arrivata sul palco, ha detto delle cose, raga, che io ero in imbarazzo a pensare che qualcuno che è lì a dire qualcosa davanti a tipo milioni di italiani dica delle robe del genere. Cioè ha fatto proprio un discorso che ha messo dentro qualsiasi cosa. Era un mix tra una biografia e delle gran cagate. Sì, sì, ma proprio disturbante. E ha fatto, e tra l'altro facendo un discorso nella sua testa tipo femminista, iperfemminista, facendo un salto indietro di temi, di cose di 30 anni, 40 no. anni, 50 no. anni forse, non lo so. Barbara, per noi sei per no. No, fuori. No, fuori. Cioè, ci spiace anche noi in realtà, non ci spiace neanche tanto, però dai, Maghe, andata... tu cosa più brutta è il festival? Raga, le gag io non le reggevo. Cioè, il momento gag non la reggevo mai, no, quasi mai. Però autori... c'è anche da dire una cosa, secondo me, per spezzare una piccola lancia, una lancetta in favore di queste gag venute male, che raga, è molto difficile, secondo me, fare le gag senza pubblico. Ma Fede, vabbè, ma è raga, molto difficile fare le gag per un pubblico che va dai 9 anni fino a 95 anni e pensare di fare di ridere tutti, non farai mai però ridere pensare di far ridere strefe. Nessuno è ben più. Beh, ce l'hanno fatta. Esatto, cioè, guarda, nel senso, parte. Se l'obiettivo era far ridere tutti, sono andati esattamente dalla parte opposta. Beh, raga, io direi che comunque Sanremo la possiamo anche chiudere qua. Sì, grazie. Sanremo abbiamo detto tutto. Dico solo un'ultima cosa per chi della Rai ci sta ascoltando, nel caso ci stesse ascoltando qualcuno, e soprattutto se qualcuno di Costa Crociere è collegato. Raga, nessuno vuole andare in crociera un anno. Soprattutto nessuno. Nessuno vuole andarci con la moglie di Amadeus. Ma chi può poi? Ma raga, chi può è che può? Mandare una pubblicità costantemente una di crociera. Una tipa in crociera, della moglie di Ama in crociera. Io mi ammazzo se vado 365 giorni in vacanza, in crociera, neanche in vacanza, in crociera, chiuso nella stanzetta, in crociera con quattro persone. Ma poi in giro per il mondo. La pubblicità, in crociera c'erano solo i camerieri con la mascherina, gli ospiti no, i camerieri sì. Ma sulla crociera non c'è merda. Avranno fatto il tambone. Sulla crociera non c'è il COVID. E parleremo in un'altra puntata di quanto fosse scarso Ibra a presentare. Faremo una puntata apposta. E di quanto fosse razzista il jingle che lo presentava. Ok. No, l'ha scelto lui. Raga, zin. Raga, Ibrahimovic è svedese. Va bene, raga, chiudiamola. Sanremo è piaciuto a tutti. Sanremo è piaciuto a tutti. Sanremo è piaciuto sempre. E sempre perché ci sarà Sanremo. Genova, arriviamo. E per aprire Genova, vi lasciamo con un pezzo del maestro Fabrizio De André. Teresa, gli occhi secchi. Guarda verso il mare, per lei figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate, mi indica un amore perso. Arriva. d'estate. Lei dice bruciato in piazza dalla Santa Inquisizione, forse perduto a Cuba nella rivoluzione, o nel porto di New York nella caccia alle streghe, oppure in nessun posto ma nessuno. Le credo. E Colombo la chiama dalla sua portantina, lei gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuole, per un triste re cattolico le dice ho inventato un regno che lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza, abortire l'America e poi guardarla con dolcezza. Ma voi che siete uomini sotto il vento e le vele, non regalate terre promesse a chi non le mantiene. Ora Teresa è alla risbarra, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni, e un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza. Abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini, tra i gelati e le bandiere, non fate più scommesse sulla figlia del droghiere. Wow. Eccoci qua. Eccoci. Bene, abbiamo, adesso che abbiamo affrontato il nostro momento parrucchiere, possiamo diventare i vostri guru preferiti. Ecco il momento Lolli Planet Liguria. Prendete carta e penna. O telefoni. O telefoni. Registrateci. No, abbiamo voluto parlare di Liguria e non di Sanremo. Potevamo parlare della canzone italiana, potevamo parlare di un sacco di cose, ma abbiamo invece voluto... No, abbiamo voluto ma parlare chi siamo di Liguria. Noi per... Esatto, perché così ci piaceva. Ci piace. La Liguria è bellissima. Non abbiamo spiegato però la gag della Liguria, no, è bellissima. No, perché... Possiamo prenderci l'ultimo secondo di Sanremo? Vai, vai. Era il 2001. Presentava... Tra l'altro, anno del G8. Anno del G8, che su cui tutto torneremo. Torna. Tutto torna. Tutto torna. 2001. Non so perché gli autori della Rai decidono di invitare i Placebo, che ovviamente nel 2001, come succedeva nella televisione italiana, cantano in playback. Incazzati, sicuro. Incazzati fortissimo. E alla fine dell'esibizione, il cantante Brian Molko decide, gli viene un'idea di sfondare un amplificatore con una chitarra e creare del panico sul palco, perché scintille cose, lui dito medio alla platea, che nel frattempo la platea inizia a gridargli scemo, scemo. Quindi sì, lui momento... già incazzato perché l'hanno costretto a cantare in playback, in playback, che non l'hanno fa fatto fare cosa, la rockstar. Esatto. E spacca l'amplificatore, la platea inizia a gridare scemo, scemo, insulti di tutti i tipi, in quel momento le telecamere non inquadrano più per un secondo il palco, ma inquadrano Megan Gale, che all'epoca era la spalla o comunque la presentatrice del festival. Lei mega in imbarazzo con un completino tipo da, non lo so, da corrida, cowboy, da cowboy, vero, roba così. Con un cappello. Con un cappellone così in testa, un toppino che dice delle cose in inglese, però la camera sta inquadrando. A un certo punto lei guarda in camera, dopo che ha guardato in tutte le camere della regia. Dopo che il coro continuava sotto, scemo. E cosa dire di fronte a lei, tanta... E lei si gira verso la telecamera e dice: la Liguria è bellissima. Fine. E parte uno spot di 4 secondi sulla Liguria, giusto per coprire il fatto che stavano smontando quello che avevano distrutto i Placebo. Vabbè. E quello è stato un altro momento. Posso dire che poteva dire qualcosa di certamente forse peggio. Sì, però no, la Liguria, i nostri cuori, la Liguria è bellissima. È quella cosa lì che si dice, no? Il problem solving. Sì, esatto. Ormai, allora, quindi cosa ci portiamo a casa, amici? Che quando voi siete in una situazione imbarazzante, se c'è Brian Molko che spacca, no, cioè, voi siete lì e c'è un Molko che vi sta spaccando la chitarra sul salotto, il salotto sulla chitarra, così per spezzare un attimo l'ambiente e l'imbarazzo, voi potete dire la Liguria è bellissima. E così ne uscite vincitrici. Però dovete preparare la regia e deve partire uno spot in quel caso, se no siete fregati. Comunque la Liguria è bellissima, la Liguria per davvero. Esatto. E partiremo dal cuore della Liguria. Dal cuore della Liguria, Genova, che ha una, secondo me è una città molto piena d'anima, una città che secondo me è proprio, sì, con una forte un forte animo. Poi, si respira, secondo me è una città stranissima, perché è tipo lunga, stretta, perché come sapete la Liguria è molto stretta come regione. E Genova la rappresenta nella maniera assoluta, in tutta la sua lunghezza, in tutta la sua strettezza. Tra l'altro è una delle poche città, credo, italiane che ha il centro non è meglio delle periferie, nonostante a Genova ci siano delle periferie abbastanza hardcore, proprio per questa sua struttura. Sopra hanno tutti questi quartieri parecchio, appunto, un po' pesi. E quindi ha tutte queste facce un po' diverse. Genova molto multiculturale, anche perché è una città super di porto. La città di porto in generale porta una città di porto porta queste cose, questo scuro, questa cosa scuro un po' romantico, scuro però romantico. Sì, bravo, molto romantica, secondo me, molto Genova. Romantica. Io però faccio così, lo dico, lo ammetto. Non ti piace? No, non sono quasi praticamente mai andata a Genova. Cioè, mi ricordo giusto il Museo delle Scienze della Tecnica di Genova. Tipo come mio massimo divertimento. Non l'acquario? No. Non sei mai stata all'acquario? No, sono stata all'acquario, ma nel mio immaginario medie elementari, perché non mi ricordo neanche bene se ero alle medie o alle elementari, mi ricordo questo Museo della Scienza e della Tecnica che mi aveva completamente lasciato bocca aperta. Ma ammetto di essere molto, come dire, incline al Museo della Scienza e della Tecnica, perché lo stesso ricordo ce l'ho anche a Milano. Ah, ok. Ma forse tu non lo sai, ma hai passato la tua vita al Museo della Scienza e della Tecnica. Probabilmente le mie insegnanti non sapevano dove portarci. Ogni volta, sì. E Genova è stata una delle nostre repubbliche marinare ed era una città molto ricca, no? Mega ricca, delle quattro repubbliche marinare che hanno fatto un po' la storia dell'Italia nel 400, 500, 600, magari mi correggerete. Fun fact, collegato alle repubbliche marinare e soprattutto a Genova, pensate che Genova era così importante per i mari e così forte con la sua, appunto, flotta, che gli inglesi, i carissimi inglesi, a un certo punto decisero di pagare Genova per utilizzare la loro bandiera sulle loro navi in maniera tale che nessuno nel mare li attaccasse, perché li scambiava per genovesi. Cioè i genovesi erano un po' i boss dei mari, a tal punto che gli inglesi utilizzarono la loro bandiera per non farsi attaccare dagli Zanza, che erano, erano gli spagnoli o gli olandesi. Molto bella. A tal punto che la bandiera inglese ancora oggi, non quella del Regno Unito ma proprio quella dell'inglese bianca e rossa, è proprio uguale alla bandiera di Genova, quindi è rimasta nella storia, è rimasta questa cosa. Dai, è tutta Genova, cioè, British furono i cinesi di una volta, esatto. Culturale per i British. Maledetti genovesi, andate a Londra, che c'è anche a riprendervi, esatto, giorni un po' complessi, poi ne parliamo. Andate a Londra a riprendervi la vostra bandiera. Comunque Genova città di mare, ma nonostante questo giusto, il centro storico è patrimonio dell'UNESCO. I Carrugi di Genova sono patrimonio dell'UNESCO per la loro bellezza, per il loro romanticismo che trasportano nel mondo, e come trasportano anche l'italianità e la genovesità. La Madonna Fede. Nel sapere e nella cultura di tutti quanti gli umani. Toti e la regione Liguria non ci hanno pagato per questa puntata. Assolutamente no. Neanche il festival per fare uno spot di La Liguria è bellissimo. Forse dovevamo farci pagare, raga. Sì. La prossima volta ci mettiamo giù. Genova in realtà nelle nostre teste, almeno nella mia testa, vuol dire anche un po' di cose contraddittorie una dall'altra. Cioè, se io chiudo gli occhi e penso a Genova, penso a TRL d'estate, quando l'hanno fatto al Porto Antico, appena rifatto. Sì, Porto Antico, abbiamo appena rifatto il Porto Antico. Esatto. Penso ovviamente all'acquario di Genova. Alla focaccia. Lì è più la Liguria. Non in generale, non la focalizzerei su Genova anch'io. No, e poi penso al G8. Al G8. Il G8 ci ha segnato. Sì, io ero piccolissima, ho 8 anni. Però sì, mi ricordo un po' quei giorni. Mi ricordo un po' di tensione in casa, che si guardava la diretta. Sì. E soprattutto, vabbè, poi mi ricordo. Poi dopo negli anni ho seguito parecchio tutte le varie documentazioni di quel fatto, che macchia peraltro il nostro paese di un primato non tanto carino. No, macchia infatti. Non abbastanza, mi verrebbe da dire, dovremmo essere ancora più macchiati. Io comunque questa schifezza me lo ricordo molto bene. C'era mio zio. E mi ricordo che in casa c'era un'atmosfera abbastanza... Sì, anche perché poi noi eravamo piccoli, però probabilmente, cioè avevamo comunque 10, 11, 8, 9 anni, però era comunque una roba che... al telegiornale se ne parlava un sacco, in casa se ne parlava un sacco, cioè era una roba che era tra virgolette lontana da noi, perché eravamo piccoli e comunque non politicizzati, però era una roba bella impegnativa, anche molto forte, mi viene da dire. Scusatemi, ma io sono rimasta scioccata, cioè mi giro un secondo verso la nostra chat Telegram, che vi ricordo essere @radiozamma_chat, e leggo: a me la Liguria non piace. E mia sorella. Vabbè, stacchiamo tutto e andiamo a casa. Okay. Vabbè Ari, la prossima volta facciamo la puntata su San Carlo. E allora dici tu di che cosa dobbiamo parlare. Scherzo. Comunque bellissima. Vabbè, la Liguria purtroppo appunto per i fattacci del G8 e della Diaz. Recentemente, ormai 2 anni fa, è caduto anche il ponte. Sì, il ponte Morandi. Il ponte Morandi. Quindi insomma la nostra Genova un po'... un po' piangente, un po' triste, da un certo punto di vista molto molto bella, secondo me, molto romantica. Sì. Secondo me la qualità della vita a Genova potrebbe, anche perché è grossa comunque, una molto grande, grande. Quindi potrebbe, la qualità della vita a Genova potrebbe essere potenzialmente altissima, da capire. Esatto. Sì. Beh, però... ragazzi, comunque, adesso poi a breve arriva, ma Genova mi è anche, come dire, città natale di tutta una serie di personaggi, direi la scena ligure, sì, perché così che si chiama, certo, la scena ligure anche attuale del rap italiano. Sì, a partire da De André fino ad arrivare fino a Tedua, a Brescia, esatto. Una serie di artisti, principalmente mi verrebbe da dire musicisti, cantautori, però non solo, che ha portato appunto alla ribalta in Italia e nel mondo anche la canzone italiana, è proprio una maniera anche di scrivere, appunto un po' questo rapporto fra cantautorato e ultimamente rap o trap o drill Liguria, che si voglia sarà dire. Sarà l'area di mare che ispira. Sì, secondo me è un po' il mare fa, noi non siamo forse così... Il mare d'inverno! Sì, che poi tra l'altro è una cosa pazzesca, perché se voi pensate anche a livello, banalmente, ora questo qua è un discorso molto semplice, però a livello musicale, cioè ci sono, per dire, Milano che sforna un sacco di roba, Roma imbattuta subito dietro, però e Torino. Poi ci sono Torino, sì, e poi ci sono ogni tanto che succedono queste illuminazioni in qualche zona d'Italia, e Genova ogni epoca, ogni era, comunque scena. Sì, è una scena, tira una fuori scena, e rimane sempre attiva. Vai, facciamo un elencone. Ma infatti ascoltiamoli. No. Non facciamo un elencone, eh? Di cosa? Lista della spesa, di un po' di talenti liguri. Sì, possiamo fare una bella lista di talenti. L'avevamo prevista per dopo, ma non c'è nessun problema. Ha bruciato la scaletta. Vabbè, fa niente. Ma Marghe, ce le vuoi leggere con la tua voce suadente? Certo. Vai. La squadra ligure o genovese annovera un sacco di nomi importanti della musica italiana. De André, Gino Paoli, Tenco, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, I Ricchi e Poveri, Toto Cutugno, I Meganoidi, Izzy, Tedua, Bresh, Ex Otago, Danny Five e Anna Pepe. Ci trovavamo nel bando sopra il booster. Bene, quindi questo qua era appunto lo spoilerone, e per lasciarvi appunto con un po' di musica genovese, un po' di musica nuova genovese, cioè abbiamo perché aperto con De André. Perché noi le playlist non le facciamo alla cazzo di cane, assolutamente, ok? No, noi non facciamo niente a cazzo di cane, quindi adesso voi vi beccate Bresh con No Heroes. Domani suoni, sali due mino fuochi. Se voglio due tiri di Wii, l'ho lasciata fuori. La porta aperta quando vuoi, metto le chiavi lì. Puoi pure chiedere di star qui per dormire poi. Oh, oh, questo suono è da donna. La musica non ha fazioni e non porta la gonna. Oh, e tu rimani lì, con l'ansia di lasciare casa per non perderti. Che a fine parchi a scuola con il capo squadra, bilancia mi provoca il disagio, io non sono sadico. Un fra non si aspetta che io lo nomino, lo vedo in bella luce davanti a un altro, perché ognuno c'ha un però. Pensava Gazza che coglioni, di avere i nemici buoni, l'opinione dà ragione a che milioni. Un altro disco è fuori, io non so se andare avanti oppure farli fuori. C'è un nuovo scemo su Spoti. Spero c'entrino il bersaglio e non lo so. Se i miti della Grecia sono tutta verità, la Marvel scrive di un mondo che non esisterà. Non ho eroi e non li vuoi nemmeno. Danni su danni credo, non ho un esempio vero. Non ho eroi, certi li conoscevo, li hanno segnati credo, sopra un taccuino nero. Chi ha qui la parte impara tanto dall'Italia, che troppo vuole, non la stringe, non si va là. Estate senza il mondiale, che schifo, sono un prodotto di sto tipo, passa la palla al meale, balza ragazza è normale. Tengo più passione per il mondo dell'azione. Non ci sono cattive perché poi mi donno uguale. Le mie peggiori mattine, pane, peggio litigate. Cado dal palazzo e Zena sembra New York. Con bazooka col tappo e primo billetto a fianco a te. Cali nei calici blow. Ho voglia di un zinco, gli effetti più magici. I miei ricordi più fragili. E mentre tagli dal giro di bow, ma ricorda che ci sono gli arbitri chiamati angeli, che tu ci credo o no. Spero c'entrino il bersaglio e non lo so. Se i miti della Grecia sono tutta verità, la Marvel scrive di un mondo che non esisterà. Non ho eroi e non li vuoi nemmeno. Danni su danni credo, non ho un esempio vero. Non ho eroi, certi li conoscevo, li hanno segnati credo, sopra un taccuino nero. Allora, vi è piaciuto Bresh? Che non è di Bresh. Che non è di Bresh. Mamma, Fede. Così? Che ma non eccoci. È di, che non eccoci, è di Bresh. Siamo arrivati milanesi in Liguria. Io lo dichiaro, sono una milanese in Liguria. Sì, volevamo parlare di questa sottocategoria, ma non sottocategoria per sminuirla, ma sottocategoria per quanto ha una piccola parte della popolazione. Liguria, adesso mi conferite 5 minuti per parlarvi del posto più bello della Liguria. Senza prendere i soldi però dalla regione, sempre. Né dal comune. è un pasto fatato che si chiama Varigotti, dove abbiamo la Unziker fissa lì tutto l'anno, l'Erzigova, come si chiama? Erzigova. L'Erzigova, che però non, è tipo Ibrahimovic. In che senso? Cioè che è tipo svedese, tipo Ibrahimovic. Esatto. Che è ligure tipo... Poi abbiamo Giacomo di Aldo, Giovanni e Giacomo. Ah, ma sono tutta gente che sono tutti milanesi con la casa Liguria, sì. Non è che Borneo. No, comunque al di là Varigotti. No, ovvio. Al di là dei Vips. La Unziker di Varigotti morto. Giacomo che fa le battute sulla Cadrega fra Varigotti. No, tra l'altro mio padre è diventato amico di Giacomo. E mi fa morire perché tipo ogni tanto va lì a rompergli i coglioni. Cioè diventa mio padre che fa le battute a Giacomo, che peraltro, come tutti i comici secondo me, sì, dal vivo non è che poi faccia così tanto ridere. Ma magari meglio, non si impegna. Non si impegna e fa il suo. E invece magari scopri che tuo padre è l'autore di Aldo, Giovanni e Giacomo. Esatto. Un sacco comunque di battute. Mio padre, perché noi non è che non abbiamo più il lettino nella stessa spiaggia di Giacomo, però mio padre costantemente va lì, quando lo vede un po' così sul bagnasciuga, prende, va lì, gli fa due coglioni così e poi torna a casa. E parlano dell'Inter o di Varigotti. Ma sì, parlano di robe. Però comunque è simpatico, non è? Però insomma. Beh, per fortuna. Quindi Varigotti è questa terra fatata, un mare bellissimo, cioè tutto il mare della Liguria, il più bel mare della Liguria è praticamente a Varigotti. Ma è vicino a Noli, no? È vicino a Noli, ma è bellissima. Non fa cagare come Noli. Ma Noli non è brutto, no. Scusami. Beh, abbastanza vicina. No, ma in Liguria c'è un unico posto bello. Punto, ok. Che è Varigotti. Va bene. Okay. Allora, io mi sento di contraddirti. Io non sono una milanese con case in Liguria. Sono una milanese che... A parte che non sono una milanese, sono una milanese magari. D'adozione. Una milanese magari. Cosa mi vuoi dire? Dai, come te. Dai. Allora, ti voglio dire una cosa. Dilla. Ti voglio dire che anche tu, mia cara, sai che non sei una milanese, hai la casa Varigotti. No, e qui ti sbagli. Io sono milanese. Lei è nata a Milano. Vabbè, però lo fa la nascita o lo fa dove hai vissuto tutta la vita? Esatto, perché se tu fossi vissuta tutta la vita a Milano, non saresti nostra amica. Non saresti nostra amica, ma non saresti... Non avresti la casa a Varigotti. No, ma avresti la casa a Santa Margherita Ligure. Esatto. Ma e mi chiamerei anche Margherita comunque. Sì, sì. Quindi, no, in ogni caso ti chiameresti Margherita. Forse ti chiami Margherita per quello, eh? No. Ah, no, ma poi ragazzi, scusatemi. Cioè, io sono figlia di Miss Varigotti. No? Margherita, tu ti meriti un programma radio solo tuo, lo so. Che ci parli di quando sei stata principessa d'Africa, di quando... Questo non l'avevamo ancora detto, però. Faremo una puntata a parte. Esatto, di quando sei stata figlia di Miss Varigotti, esatto. Di... Mia mamma tutti i giorni praticamente mi sbatte in faccia questa roba. Sì, no, ma poi non c'è neanche una storia... Adesso ricordo anche una storia del mio passato che tu mi hai detto... Che c'è qualcosa della tua famiglia sulla Mole Antonelliana o del Museo del Cinema Torino? È il Museo del Cinema Torino. Ne parleremo. Allora, la Liguria, a parte milanesi Liguria, in realtà è un mega trend che c'è stato negli anni 60 circa, 70, chiamato la rapalizzazione. Spiegaci in realtà, di più, Marzia. Se andate su Wikipedia, trovate la rapalizzazione, cercate rapalizzazione e trovate questo. Rapallo, famous anche lì per essere casa di... milanesi o wannabe milanesi o milanesi dintorni in Liguria. In realtà Rapallo probabilmente doveva essere anche carina prima, adesso manco brutta, in realtà non è brutta Rapallo, però... anziché giusto a fianco a Santa Margherita Ligure, totalmente distrutta dal cemento e dalla invasa urbanizzazione. Posso dire una cosa? Che a Varigotti no, a Varigotti c'è questa c'è questa leggenda, ma che secondo me è vero, che durante la guerra mondiale, non so se la prima o la seconda, hanno fatto una colata di cemento per evitare che le barche in qualche modo attraccassero alla riva, no? Ah, quindi non c'è stata la rapalizzazione perché era già tutto cemento. Ma la cosa divertente è che adesso quella roba lì, quel cemento lì nell'acqua, è diventata una sorta di Riviera Corallina. Io ve lo dico, poi ditemi bene, che c'è un altro posto più bello in Liguria, va di bene? Marigotti, va bene. Comunque la cosa divertente è che appunto un sacco di milanesi, non della nostra generazione, che però sfruttano queste case assolutamente, hanno fatto le loro vacanze, le loro estati. Cioè, c'è una marea di gente che io conosco di Milano che effettivamente è come se Milano in un certo momento dell'estate si trasferisse là nei weekend e Milano si svuotasse. In realtà Santa Margherita Ligure, Portofino e affini si trasformano appunto, cioè sembra essere in colonne. Ah, vero. A Varigotti invece ci sono i torinesi. Ah, ok. Vero. Motivo per cui tu sei là, quindi. Esatto. Ok, esatto, ok. Perché okay. Sono metà torinese. Metà torinese. Ci sono anche tanti torinesi in generale. Sì. Tutta la, nel mondo, credo. Forse nel troppi. Nel mondo forse e troppi. Soprattutto sulla Riviera Ligure. Comunque c'è anche un comico che si chiama, mi sembra, Andrea De Marco, se non mi sbaglio, che ha fatto il movimento estremista Ligure, ed è uno sketch, lui andava a Zelig, è uno sketch molto divertente, cercatelo, li fa sempre ridere. Era quello della torta di riso? No. Cos'è? Io mi ricordo questa gag a Zelig sulla torta di riso e loro erano liguri. No, uno non è uno da solo. Va bene, uno, va bene, scusate. Che fa il tipo Avarigotti. Avarigotti. Bene, Fede, andiamo. No, dici l'ultima cosa. Esatto. Dici qualcos'altro su Varigotti che non sappiamo. Prego. Allora, a Varigotti esiste una no, Marche, stavamo scherzando. Era una bugia. Ok, scusa. Però a Varigotti esiste, basta. Non, nessuno aveva mai parlato così tanto di Varigotti. Mettiamo gli exotago, va. Posso dire una cosa? Mio professore uno dei miei professori di università, lui diceva Ligure di Genova, lui diceva sempre che andava al mare posto a Varigotti. Più bello. Vedi? Oh. Però lui, intanto che eravamo all'università, stava scrivendo un libro sulla sociologia dello zarro, lo zarro in spiaggia. Ok. Non ci credo. A Varigotti non ce n'è. Inspired by people from Varigotti. No. Raga, a Varigotti sono tutti premium. Super primi, no scherzo. Ma come è tutta la Liguria. Posso tutta. Dire che non c'è un cazzo da fare in Liguria, però di sera a Varigotti. A Varigotti, a Varigotti non c'è molto da fare, quindi alla fine comunque, finisce a fare. Dalla chat Baldoni, ci dicono che Rapal è pieno di pensionati, quindi immagino che anche lì non ci e sia granché da fare. Poi ci dicono tutta la Liguria, raga, è piena di pensionati. Sì, è vero. Sì, no, ma si presta perfettamente. Perché è comoda. È comoda, cioè tra la casa e il mare c'è poco da camminare. Quindi sei sulla Aurelia, sì, un minuto sei al mare, l'altro minuto sei al supermercato. Piena di macchine però. Sulla macchina si è messi male. Parla come, proprio lei come se fosse lì. Sulla macchina Belin si è messi male. Beh, io a giugno comincio i miei weekend lunghi a Varigotti. Che quest'anno non potrai. Lascia fare che la seconda casa che quest'anno non potrai. Comunque, prima di introdurvi al prossimo pezzo, ci tenevo a fare una cosa molto personale e salutare il nostro primo ospite da oltreoceano. Salutiamo Loris, il mio carissimo Loris. Ciao Ottavino, Loris. Hi Loris, che ci ascolta da New Jersey o da New York, a seconda di quale delle sue prima, seconda, terza o quarta casa si trovi. Ma è mai stato a Varigotti? Non è mai stato a Varigotti. Forse no. E quindi ciao Loris, un bacione e forza Inter. Ti lasciamo con Costa Rica degli Exotago, che potrebbe essere particolarmente dedicata a te, a Varigotti forse, ma anche a te, perché parla della mancanza dell'Italia, quindi ci hai fatto un perfetto gancio. Un bacione, vi lasciamo con Costa Rica degli Exotago. Lo bacio un altro sole, non mi chiedere di spiegare cosa provo quando devo ritornare. Queria volar come uno pelicano e poter nadar come la olvidándose de todo. Costa Rica, pocas casas, pura vida. Costa Rica, pocas casas, pura vida. La tarata. Passi, non calpestano il ricordo gli affetti nel vecchio quartiere di Marassi. Tramonti, colori, surf non solo per sport. Impennate sul quad costruendo il mio resort. Lascio tutto, troppo facile dire chi te lo fa fare. Consapevole che a Genova c'è un altro cielo, un altro mare. Verde speranza, sole oro, pur non essendo remida. Mi alzo col sorriso e respiro, pura vita. Costa Rica, i pappagalli ripetono il mio nome. Le onde mi vengono a cercare. Infilo lettere in bottiglia così da farmi ricordare. Sorrisi, turisti, pollici alzati, sempre pronto per la sfida. Costa Rica e respiro, pura vita. Genova mia cara, non ti preoccupare. Tra le mille cose che ho da fare, sono sicuro che un giorno troverò il tempo per tornare. Costa Rica, pocas casas, pura vita. Costa Rica, pocas casas, pura vita. Costa Rica, pocas casas, pura vita. Costa Rica, pocas casas, pura vida. Ta-ta-ra-ta. Barigotti, ti amo. Ma che bel pezzo questo, mi ha fatto sentire un po' già in estate. Io un po' Barigotti. Costa Rica, degli ex... Costa Rica degli ex Otago porta sempre un sacco di passione, cuore aperto, secondo sì, me. Sì, voglia di un Campari Orange. Ah, invece siamo qua. Invece vabbè. Siamo qua. Vabbè, dai, Radio Zam, lunedì sera. Mimosas. Mimosas. Oggi è l'8 marzo, no? 8 marzo. 2021. Sì. Auguri a tutte le donne. Auguri a tutte le donne. Oggi e per tutto il resto dei giorni. Sempre. Dopo chiuderemo con un monologo che ho preparato su questa cosa. Grazie Fede. Certo. Dedicato a voi, ma dedicato sempre. Altra Fede ci ha ricoperte di mimose. Sì. Non è vero. Non è vero. Vabbè, comunque. Siamo arrivati alle cose storiche e curiosità sulla Liguria. Vai, questa è proprio la parte del... Quando io pensavo al nostro fuori dal comune, cioè me l'immaginavo esattamente, non che sia andato fuori dai piani, però me l'immaginavo esattamente con un sacco di cose interessanti che voi potete riciclarvi con i vostri amici nei 5 minuti. Sì, esatto, ricordiamo sempre i nostri ascoltatori, perché magari ce ne sono di nuovi, che questo è proprio il nostro obiettivo, rendervi delle persone veramente simpatiche, interessanti, erudite, con cui ti berresti proprio un Campari Orange sempre. A Varigotti. A Varigotti. Mi hai letto il pensiero. Sì, Varigotti place to be. Cioè, adesso abbiamo fatto la puntata sulla Liguria. Tra 2 settimane facciamo la puntata su Varigotti e tutte le vie, la toponomastica. Esatto, una puntata su un ristorante sì, esatto. Di Varigotti. Il tabacchino di Varigotti. Varigotti costa un po', però vabbè, le sigarette dai. Costano guai dappertutto. No, le però. Sigarette, mangiare. Okay. Allora, invece la mia famiglia è un po' legata alla costa invece più vicino al diciamo alla Francia, quella okay, parte okay. Là, no? Quella di Sanremo. Perché perché ovviamente da buon esponente della provincia e della bassa della regione. Borghesia, esatto, paesana e le mie zie, credo, comunque non so, la mia famiglia a un certo punto andava spesso in vacanza a Bordighera, che io fino a quest'anno dicevo Bordighera, ma poi no, sì. Bordighera, perché c'era una colonia, tipo una casa della provincia, uh-huh. Cioè la provincia di Milano, sì. La provincia di Milano aveva là una casa, una specie di villa, tu potevi andare a fare le vacanze là, quindi sì. Andavi a fare le vacanze in provincia di Milano, from provincia to provincia, quindi sì. Noi bello, andavamo. Bello. Molto bella, una casa molto bella, e tutta quella parte là di Riviera, compresa la nostra amica Bordighera, No. La nostra amica bordighera, no, ma soprattutto la nostra grandissima amica Sanremo. Ah, sì. Scusa, giusto. Sanremo che è giusto lì accanto. Accanto. È stata in realtà scoperta dagli inglesi. Sì. E infatti là, giardini pazzeschi. Sì. Natura, microclima, stupendo. Stupefacente. Palme, neanche palme, a dirvelo. Neanche a dirvelo. Che sembra la California. California. Praticamente è stata scoperta dagli inglesi che a un certo punto, nell'Ottocento, un autore che ora leggo, il dottor Antonio, sì? Esiliato a Londra, okay. un autore, il dottor Antonio, poverino, patriota e carbonaro. E carbonaro taggiasco, quindi di arma di Taggia. Il dottor Antonio era esiliato a Londra e alla fine del 1800, no, a metà 1800, ha scritto questa Lonely Planet. Libro, sì, esatto, questo romanzo, non so, sì, eh? Su le bellezze della Riviera dei Fiori. Ah, bello. Che è appunto quella, The Flowers, esatto. Riveri. Nel frattempo, giusto, nel frattempo c'è stato un fenomeno che noi conosciamo molto bene e di cui vi parliamo spesso, che è quello della gentrification della Costa Azzurra. Sì, cioè la Costa Azzurra iniziava ad essere too expensive, esatto, no? Too expensive. Nel 1800 già gentrificata, cioè, avevi tipo che... vegan tofu, esatto. Cioè immaginatevi, 1855 tu prendevi il carro andavi a Nizza, il treno, andavi a Nizza, scendevi a e c'era Mentone. A Mentone anche, sì, e c'era tipo, appena scendevi dalla stazione c'era una pocheria e di fianco un kebabaro e un ristorante cinese, sì, e un ristorante cinese pettine in centro, poi questa era Mentone, poi sì. Se andavi invece tipo a Monte Carlo, appunto, sì, a Nizza, sì, così avevi flat white cinnamon roll, e nell'Ottocento i ragazzi hanno detto cinnamon roll, ma piacciono, esatto. E allora hanno detto perché spendere tutti questi soldi quando posso andare tanto così un altro posto probabilmente sconosciuto, ma che il dottor Antonio aveva già spammato tutta, esatto, l'Inghilterra. E da qua nacque la taccagneria. Forse, sì, no? Ma forse no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, non sì, so, sì, forse. Sì, potrebbe, no, potrebbe. Praticamente è East of East of Nizza. East of Nizza. Inni diventa la nuova Nolo del 1856. Quindi Nizza, Nizza era assolutamente Porta Venezia. Sì, esatto. Nizza come Porta Venezia, super gentrificata, la gente prende e scavalla piccola parte di Alpi. Esatto. Boom, scavalla Corso Buenos Aires e si ritrova Anoli, sì. Nella nostra Riviera dei Fiori. Non a caso è vicino a Varigoso. Esatto, esatto. Non a caso. Arriva nella nostra Riviera dei Fiori e dici: ma che bel posto questo. Mamma mia. Ci piazzo le tende. E quindi anziché piazzarci le tende, perché comunque si erano abituati al flat white e cinnamon roll, hanno deciso di costruire degli hotel pazzeschi, giardini, casino. No, di tutto, un tennis, bellissimo, club. E soprattutto, appunto, talmente erano nobili, là era diventata proprio la nobiltà, un po' la Brianza della Liguria, esatto, degli inglesi francesi. Sarà Nolo tra, sì, qualche anno. Hanno deciso di fondare anche il primo tennis club d'Europa. È stato fondato proprio a Bordighera. Mamma mia, quante notizie, quanto spettacolo. Andiamo avanti. Allora, sempre in tema di appunto, per cose interessanti per quanto riguarda la Liguria, come non possiamo citare i famosissimi e celeberrimi Giuseppe Garibaldi, che era anche il nome della mia scuola elementare, ciao Giusi, e il mitico Cristoforo Colombo, personaggio, non possiamo, loro Cristoforo erano... Colombo, se ci stai ascoltando, Cristoforo Colombo, ciao. If you're there, ciao. Ciao. E c'è stato un grande dibattito, perché vabbè, Garibaldi in realtà è nato a Nizza, però faceva parte del regno di quello lui che era posh. Esatto, lui era posh, e poi infatti è venuto di qua appena iniziava a costare troppo il poche. Lui comunque lui in quanto rivoluzionario giustamente, sì, si è spostato. Invece Cristoforo Colombo, grande guerra sulla Spagna che diceva che era spagnolo, l'Italia che diceva che era italiano, alla fine pare che comunque fosse italiano, addirittura forse genovese. Quindi queste sono due cose interessantissime da dire riguardo, certo, la Liguria. Poi abbiamo i jeans che mi sono stati inventati in Liguria. Sì, i jeans, queste cose sono tutte cose che potete rigiocare a, con no. i vostri amici, eh. Cioè i jeans, quello che tutti quanti indossiamo, quindi alla fine c'è un po' di Liguria in tutti noi, non sì. è solo Varigotti, ma quando indossate i jeans, tipo, cioè ora, tipo ora, tutti, tipo, e, tre. Tutti e tre noi, sappiate che i jeans li hanno inventati i marinai genovesi o comunque liguri per portare le vele, come sacche per le vele, perché appunto non si rovinavano, erano facili da fare, molto top. Resistenti. Top. E poi, tutto quanto. Un ultimo aneddoto che ti vorrei chiedere, Fede, che mi era piaciuto molto, è quello sul lotto. Ah, sul bello. Lotto. Sì. Allora, dovete sapere che il lotto, per come lo conosciamo oggi, è stato inventato proprio a Palazzo Ducale a Genova. Che praticamente consisteva in una sorta di scommessa su quali persone avrebbero ricoperto determinate cariche pubbliche. Le cariche pubbliche, guarda caso, erano 90. Fantagoverno. Esatto, sostituiscono le... i nomi delle persone con dei numeri e così nasce il lotto e poi la tombola e poi diamo così i numeri e diamo i numeri. Che bello, esatto. Meraviglioso, sì, bello. Meraviglioso, mi piace. Quindi adesso facciamo, non ho capito una cosa, chiedo sì. alle mie colleghe sì. facciamo esatto, facciamo un pezzo e poi continuiamo con altri fattacci della qualche fattaccio esatto, e poi con pezzo l'ospite. E introduciamo l'ospite, quindi e il poi pezzo via. Che dobbiamo mettere ora è questo, è lo vado a selezionare. Mostri contro fantasmi di Suona. Rocas e Dani Five. Canta. No, sbagliato tutto. Suona la radio. L'orchestra. Dirige la radio. Federico Criscuolo per Fuori dal Comune. Sì. Canta Rocas feat. Dani Five. Vuoi restare con me? Mostri contro fantasmi, non ho paura con te, tu corri e non voltarti, vuoi restare? Yeah, yeah. Non mi parlare mentre ti interrompo, tu sei una patata arrosto, sì solo un contorno, yeah, yeah. Sto rilassato, si sembra un gelato. Rido di gusto, stracciatella, cioccolato. Yeah, yeah. È stupido se fai il furbo con me. L'esperienza credi che ti ha reso un rap, yeah, yeah. Non mi confondere con questi rapper. Sai che facciamo proprio due cose diverse. Sto in chilling insieme a Dani. Tu giri viti, Murakami. Scrivo con un tratto da una storia vera. Tu mi fai una sega, mi fai la cena. Non mi sta impegnando, sembra che ho a che fare coi bambini. Non li mischio tanto, mostri quei fantasmi quando giri. Certe storie in testa, puoi capire cosa sto cantando. Ora mi sta scaldando, ora mi sta scaldando. Mi conosci per la voce roca. SPLA con le panne, sto con Rocas. Non prendo quel 36, ho se Luca che mi porta. Ma c'ho sacca icono bay, perché non conta se costa. Che ho la weed che si porta da sola, poi ritorna, faccio trick nella zona. Per non pagarla niente, niente beef, resto in forma. Salad nel mio piatto, scendi a patti in bomba. Non è un segreto affatto, faccio un trip nella pana, stretto nel petto, sento un trip che mi lascia sveglio nel letto, dentro un tic che mi parla, mi dice sentirò la pic che va sola, scrive di jet, yeah, yeah. Sono mostri che mi prendono ma non ho dubbi, eh. Sì lo so che sono solamente cose stupide. Sento che io ho tuo giorno di ringraziamento, fra. Esce un pezzo e mi fa giorni di ringraziamento, fra. Siamo acqua, solamente acqua. Un po' di sangue e basta. E poi niente di che, fra. Ma non voglio la tua pietà, yeah. Vuoi restare con me? Oppure no? Mostri contro fantasmi, non ho paura con te, non ho paura con te. Tu corri e non voltarti. E sui coretti ritorniamo. Comunque, stasera siamo un po' da Campari Orange, sì, molto Campari. Dovremmo iniziare a portarci del Campari in radio. Sì. Vabbè, raga, quale, cioè, se risate di un'ora per istofnizza, esatto, un po' di campare, forse esatto, andiamo oltre. Ma esatto, raga, avete carta e penna? Perché qui ve ne stiamo sparando delle altre. Eh? Sì, partiamo con la seconda parte, volume 2 delle cose da sapere sulla Liguria. Vai, Fede. Alcune cose da sapere sulla Liguria. Tan, tan, tan, tan. Allora, altre cose molto interessanti. Varigotti è bellissimo. Varigotti è bellissimo, e questa ve la dovete stampare sulla fronte e tatuare sopra il culo come i tribali, ok? Esatto. Fai. Poi, altre cose, delle cose che vengono fondate per la prima volta. Dovete sapere che il gioco del calcio in Italia è stato portato dagli inglesi, tanto per cambiare. Inglesi però. Raga, era sempre lì, ha letto il libro del dottor Antonio, ha detto, raga, andiamo tutti là e si sono messi a fare qualsiasi roba. Va bene. È già buona che non abbiamo un Big Ben. Cioè. Smarmella tutto, hanno detto. Esatto. Va bene. Dottor Antonio non l'abbiamo detto di dove era, probabilmente di Napoli. Sì, esatto, dottor Antonio in realtà era mio avo. No, allora, stavo dicendo, nel 1893 viene fondato il primo club di calcio italiano, che è il Genoa Calcio, non a caso fondato dagli inglesi, non a caso il nome è proprio Genoa, che è un po' tipo la inglesizzazione di quello che era Genova. Che anno, Fede? 1893. Wow. Un po' di tempo dopo, ma tra l'altro sono arrivati molto prima di altri, cioè se voi pensate tipo al Milan è del 1899, l'Inter del 1908, quindi sono arrivati parecchio. La Juve mi sembra il 1903. Sai che non mi ricordo l'anno della Juve, però sì, potrebbe essere. Comunque c'era tipo la Provercelli, c'erano delle squadre un po' strane. Comunque è partita tutta da lì, no? È partita tutta da quella zona lì, e poi pian piano Piemonte. Quindi il calcio in realtà ha origini british? Assolutamente sì, sport inventato dagli inglesi. Mandato in tutto il mondo, e gli inglesi per molti anni, tra l'altro era uno sport molto elitario. C'è una serie molto bella su Netflix da vedere, non mi ricordo il titolo, però parla della genesi del calcio. Bello. Vabbè, comunque guardatela, poi ve lo scriveremo nelle stories. Poi, sempre collegato al calcio, un'altra notizia interessantissima: la famosissima squadra Boca Junior di Buenos Aires, probabilmente una delle squadre più famose del mondo e sicuramente tra le più famose del Sud America, deve il suo nome al fatto di essere nata nel quartiere de La Boca a Buenos Aires. La Boca a sua volta prende il nome da Bocca d'Asse, che è un paesino in provincia di Genova, se non sbaglio molto vicino, che è stato fondato da genovesi, quindi richiama sia il nome sia l'architettura anche molto colorata di Genova. Altra cosa molto divertente è che i tifosi e i calciatori del Boca vengono chiamati, in una traslitterazione un po' complessa, Seneises, che sarebbero un po' un genovesi, appunto. Bello. E quindi genovesi per il mondo, liguri per il mondo. Bello. Siateci, non solo Cristoforo Colombo e non solo Garibaldi. Poi il pesto è ligure, ma questo lo sapevamo, ma forse non sapevamo che il chinotto è ligure. Sì, una delle mie bevande preferite. Sì, anche a me piace molto il chinotto, anche io grande fan del chinotto, e non sapevo che fosse ligure. Lo davamo tutti siciliano, e sì, invece così. Invece no. Raccontaci della storia dello zero. Ah sì, dovete sapere che lo zero idrografico italiano. Raccontaci un po'. Raccontaci una storia. Lo zero idrografico italiano, sia da cui si misurano tutte le altezze in Italia e credo anche per quanto riguarda l'Europa, viene contato e viene misurato attraverso una media che viene fatta all'interno del porto di Genova. Quindi lo zero vero, il momento zero per sapere se siete tipo a 400 metri sul livello del mare, viene considerato una media tarata sull'anno all'interno del porto di Genova. Ma che cos'è che non ha Genova a questo punto? Boh, non si sa. Non ha Milano, forse. Bravo, d'estate, bravo, sì. Chicco. Poi, l'ultima cosa che vi scioccherà un pochino. Sì, questa è anche un po' difficile da spiegare, però dire, scusate, che la battuta di prima, quindi cosa non ha Genova, non ha Milano, così un po' Zlatan. Un po' Zlatan, ma di fatto mi sono fatto prendere da... Mi stai dando dello Zlatan? Non a te. A me. Ok. Ehi, mi stai dando dello Zlatan, forse? La Marga voleva lanciarsi anche a fare la doppiatrice, esatto. Sta già provando a fare le parti delle serie americane. Allora, è una cosa molto particolare. Amico. Ehi, amico, mi stai dando dello Zlatan? Allora, concentrati perché concentrati. È difficile. Allora, nel mondo ci sono... 7 miliardi rotti. Ma l'ha detto cosa? L'ha detto Massimo Pericolo. Esatto. Anche Fra Quintale. E anche Fra Quintale. Anche qualcun altro. Non ciao, credo che sia qualcosa. Se ci state ascoltando, ciao. Fra Quintale, esatto. Quella canzone mi piace molto. Però forse era 8 miliardi di persone. È vero. 8 vabbè, facciamo anche 8. È stato facciamo un anche 8. Esageriamo. Quindi siamo 8 miliardi. 8 miliardi. Allora, immaginatevi di prendere questi 8 miliardi di persone. Chiudete gli occhi. Visualizzatele. Visualizzate 8 miliardi di persone. So che è molto difficile, però poi immaginatevi il centro cittadino più densamente popolato del mondo. Cioè, ce l'avete? Ce l'ho. Cioè, ok, quindi una città che è molto densamente popolata. Se voi rapportate Tipo Singapore, tipo il centro di Hong Kong, okay, tipo Nuova Delhi, non lo so, questi posti, sì, qua, sì. Ok. Un botto di gente, tutti stretti, palazzi neanche tutti troppo ammassati. Alti, però tutti ammassati. Ora prendete quegli 8 miliardi di cui parlavamo prima e li distribuite in un posto sulla Terra. E viene fuori la Liguria. L'equazione è la Liguria. Cioè, ora immaginatevi che la Liguria tenga tutti questi 8 miliardi. Posso dire una cosa? Sì. Quindi, se ci fosse un disastro mondiale, sì, tipo, tutti in Liguria, dovremmo portare tutti in Liguria. Tutti, sì, in Liguria. Però questo Lea. Non calcola la fattibilità della cosa, ovviamente. Okay, no. Cioè, tipo, avremo tutti un water. Avremo tutti dell'acqua potabile. Però questo, così stai andando oltre. No, però dico, è solo una misurazione che tutto il mondo ci starebbe stretto, messo come il centro cittadino più densamente abitato del popolato del mondo, in Liguria, in quello che occupa la Liguria con le sue quattro regioni. Bene, mi piacerebbe capire esattamente chi ha fatto questo ragionamento e perché. Credo, secondo me, che sia stato fatto un calcolo di quanto è estesa la Liguria e quindi poi immaginandosi tutte le persone con una densità di un centro abitato molto denso e quindi hanno provato a fare il rapporto dove potrebbero stare tutte queste persone, putta caso è venuta fuori la Liguria. Pazzesco. Sì. Ultimo fatto e poi vi introduciamo l'ospite. È uno stereotipo. Che però, Mi confronto con voi, non vorrei spoilerare più la scala. No, è uno stereotipo. Come ben sapete, i liguri vengono conosciuti come tirchi e taccagni. È un po' vero. Tirchi e taccagni, anche poco ospitali, ma principalmente tirchi. Ma taccagni. Come tutte le cose, ha un'origine. Non è per che quanto... ci siamo svegliati un giorno, esatto, e siamo nati taccagni. Per quanto noi ci possiamo credere. Lei si fa, che... sì, lei che è ligure. La Marghe è cittadina del mondo davvero. Esatto. Cioè, lei si chiama Marghe e di secondo nome Esperanto, raga. Marghe Esperanto Rotelli, eccola, sì, qua, ce l'abbiamo, sì, in radio con ebbene noi. Ebbene sì, ok, ebbene sì. Ce l'abbiamo. No, allora, dicevamo, noi non è che ci crediamo, comunque non vogliamo spingere su questo luogo comune. Comunque si racconta, Sinar, poi giurano che non parlo più perché non c'ho più saliva, raga. Che il motivo per cui i liguri o comunque i genovesi vengano, diciamo, veniamo additati veniate additati come taccagni, ha un motivo storico ben preciso. Ok. Allora, il motivo storico è il seguente. Intorno al 1500, sì, come sapete, Genova spopolava nel mare, come dicevamo prima. Erano proprio, immaginatevi, sul T-Max nel mare che spingevano e nessuno li abbatteva. Va bene. Scoppia la guerra fra Inghilterra e Spagna. Ok. I raga genovesi dicono, vabbè, sai cosa, aiutiamo i nostri cari amici spagnoli, perché gli inglesi... Mi stanno un po' sul cazzo. Esatto, mi stanno un po' sulle palle, sono venuti qua, hanno fondato il tennis club. No, era 1500, non c'è altro. Il tennis club. Comunque, loro cosa fanno? Investono un botto di soldi dell'epoca, mm-hmm, costruendo 130 vascelli e dando 25.000 soldati alla marina spagnola, mm-hmm, facendo così, costituendo quella che era riconosciuta sui libri di storia e anche all'epoca come invincibile armada. Spagnola. Sta di fatto che l'invincibile armada spagnola sta di fatto che incontrano sul loro tragitto il caro generale Drake. Non il Drake. Ma quel Drake? No. Non il Drake di Toronto. Esatto. Proprio lui che col suo piumino di Moncler sul ponte della nave ammiraglia, sulla Nina e la Pinta della Santa Maria dell'Inghilterra. Canta. Canta esattamente così. Quindi immaginatevi questa scena. In realtà non era quel Drake, ma era probabilmente un suo antenato, tale Francis Drake, che schianta al suolo l'invincibile armata spagnola. E quindi, ecco, da quel momento lì, il declino di Genova, che porta poi a Genova, ai genovesi, a dire: beh, prima di cacciare il grano per qualcosa, pensiamoci. Esatto, pensiamoci. Quindi, bene. Cioè, poveri genovesi, poveri noi, poveri loro, poveri la mia testa. In questo momento c'è solo il meme di Drake che dice: Armata spagnola. Francis Drake. Questi siamo un po' Lundini che raccontiamo i meme, non li facciamo vedere, ma facciamo vedere il racconto del meme. Bello. Invincibile armada. Ragazzi, qua stasera così un po' descrittivi. Prima di lasciarvi al prossimo pezzo, esatto, però. Anzi, prossimo pezzo che è stato scelto dall'ospite, perché adesso abbiamo questo nuovo trend che non vi abbiamo raccontato, ma che vi raccontiamo oggi. E ci siamo detti: ma dobbiamo romperci i coglioni anche a scegliere il pezzo prima dell'ospite? No, no, facciamoglielo scegliere all'ospite stesso. Ma io direi che è dalla prima puntata che lo facciamo. Sì, l'abbiamo sempre detto. Sì, sempre detto. Dai, che ragazzi, la prima puntata hanno, secondo hanno me, portato gli Arctic Monkeys. Ah, sì, forse però non l'abbiamo fatto per tutti, esatto, per tutti quanti. Esatto, sì. Era una bella idea che poi abbiamo recuperato. Sì. Quindi, allora, dunque, il nostro ospite si presenta come direttore artistico. Del noto notissimo festival Balla coi cinghiali. Bello, bellissimo. Bello, bellissimo. Ricordi di adolescenti. Sì, sì, molto bello. Ma quindi abbiamo detto, sì, non solo. Intanto si chiama Antonio. Ciao Antonio. Che tra non poco credo vi ti chiamiamo il Antonio. Che non è il dottor Antonio. Sarebbe parecchio longevo. Quindi Antonio Mie, ligure anzitutto. Sì. Direttore artistico dei Balla coi cinghiali per secondo luogo. E sì, poi appunto abbiamo questo spoiler che adesso ci faremo anche un attimo raccontare, che mi è stato anche autore del Festival di Sanremo. Quindi il nostro amico Antonio, che non è il dottor Antonio, ma sempre di Antonio si tratta, per autopresentarsi in questa puntata di Fuori dal Comune dedicata alla Liguria, ha scelto un bel giro di liguri, direi. Sì, sì, una bella squadretta. Una bella almeno squadretta, tre. Almeno tre, che mi sono. Che ti sono? Izzy. Tedua. E Vazte. Te con Wild Bandana. Bandana. Quando ho iniziato ero indiziato, odiavo ogni viziato, sei viziato, volevo far rappare i miei usciti di galera dalle popolari, ma il track ha cambiato i piani, ricordi Easy arrestato con i puffi sulle spalle, le palle di non aver cantato come fossi in grado, e Mudu si trasferì da Coco a Grato, portava cappa di cioccolato, ricordo Rave quando stava nel garage, poi Valse, coscienza del classico, l'onestà intellettuale, lo spessore tra blocco e blocco dello scrittore, nella montare rima alla montale, fin quando sangue ne aveva perso, il suo flusso era messo dalle case del comune, sopravvolti tre cosci di coca e carandasco, lo rock ancora poca coscienza, i primi live ricordo rissa dare coco con Bolzaneto, Galletto urlava scavati la fossa da solo, ma un'ora dopo stavamo bevendo a seo e nel retro non si poteva spargere ignoranza, quando Mura stava tra quattro mura e cantavamo in alza, sua mamma intanto si imparava rispetto per fare i rap di strada. Io lo so cos'è meglio per me, solo che poi non lo faccio, non ho soldi sì ma per adesso, vedrai prima poi rifaccio, compravo i libri a libraccio, voglio soltanto un riscatto, per me la mia banda fumi a mi spiaggia, versa la fanta col ghiaccio, gridavo il bandana, il bandana, e il bandana, il bandana, il bandana, il bandana, e il bandana, il bandana, gridavo il bandana, il bandana, e il bandana, il bandana, il bandana, il bandana, e il bandana, gridavo il bandana. Era la primavera del rap, Genova era piena di nade, la prima da demo l'ho fatta per Archi, alla fine per Diego hanno steso le carpe, la musica è un'ottima amante o una pessima partner, sarà Jessica Parker, se per questo due bombe ce le ho messe da parte. Guarda là la bandana, dai primi ponti saltati per aria, tutti i lavori saltati mio frata, fit con i conti saldati per strada, presa bene che non ci hanno catturato, genovese come nel cantautorato, poi fermo restando tutti i cazzi miei, paradiso ciò che meritano i miei. Faccio così e così, che vuoi saperne di chi, te vuoi sgrammare soltanto un fit, sentirti dire di sì e di sì, vinciamo perché non ci siamo divisi, sto ancora con Mario nel nuovo di Easy, curato dal diablo, è il giorno del karma e fra noi gli facciamo il regalo. Io lo so cos'è meglio per me, solo che poi non lo faccio, non ho soldi sì ma per adesso, vedrai prima poi li faccio. Compravo i libri a libraccio, voglio soltanto un riscatto, per me la mia banda fumi a mi spiaggia, versa la fanta col ghiaccio, gridavo il bandana, il bandana, il bandana, il bandana, il bandana, il bandana. Puglia, due atteso al campetto, si in cerca di rispetto. Ne avevo circa 16, un anetto. Più o meno aspetto il treno cocoletto sopra il terzo, che ancora scurti per il controllore, stai senza biglietto. E conosco vaste, in giro per le piazze, dal centro alla periferia, sto in sintonia con mille razze. Schifavo le ragazze perché mi sentivo brutto, ho cominciato con le canne perché mi serviva un tubo. Il primo take con sangue, le radici sporche, macchie, cicatrici in panne con gli amici. Rubavo le bici per tornare a casa, a casa con mia madre, mia sorella litigava, c'è nero isolato, a scuola ci provavo e lo studierà il mio tempo. Sempre dentro con le tempi calde, lavoravo in sale per stare contento ed ingoiavo valle come pieno, per stare sereno come il tempo, che col passare mi sentivo più empio. E provo a lasciare ma poi cado sempre, strisciate come serve, io non vi devo niente. Che ho conosciuto rave quando già vedeva male, quando due canne al parchetto separavano le strade. Le ceste nel pacchetto, i 10 grammi palla, con la faccia gialla che mi raccomando mangia, raccomando mamma, raccomando con i miei. Non ho mica 40 anni come i DSA, la merda che si mangiano i pasti fra. Io non volevo, ma sono un dottore, giro cane, giro il mondo come l'equatore. Faccio questo e faccio quello perché non ho limiti, giudizi li metto da parte, sono i brividi che sento che mi lanciano avanti. Ho fatto guerra per un sacco, ma sa sacco con i guanti. Ho fatto guerra per un cazzo, adesso siamo a patto d'armi, che non so se stare o se devo scappare o se forse devo pagare dazi. Io lo so cos'è meglio per me, solo che poi non lo faccio. Non ho soldi sì, ma per adesso vedrai prima poi rifaccio. Compravo i libri a libraccio, voglio soltanto un riscatto. Per me la mia banda fuma, mi spiaggia, versa la fanta col ghiaccio. E grida wild bandana, wild bandana, ehi hey, wild bandana, wild bandana, wild bandana, wild bandana, ehi hey, wild bandana, wild bandana, grida wild bandana, wild bandana, ehi hey, wild bandana, wild bandana, oh wild bandana, wild bandana, ehi hey, wild bandana, grida wild bandana. Eccoci, che bel pezzo, dai, belli. Mi è piaciuto. Io te due lo sono andata a sentire una volta a Legnano, raga. Forse c'eri anche tu, sì. Ci eravamo detti. Molto bello, a me è sempre piaciuto. Ultimamente in realtà l'ho perso un po'. Stiamo tutti aspettando che esca con l'album. Ok, ok, grazie, raga. Ma comunque, eccoci. Non perdiamoci. Anyway. Ciao Antonio, ci senti? Ciao, ciao a tutti, sì, vi sento. Ciao, ottimo. Grazie. Ciao. Grazie per essere con noi anche oggi. Anche. Cioè, oggi. Vabbè, oggi. Oggi in questa puntata che non ci ha piagato l'amministrazione Toti, ma che siamo... Scusami, tu da Ligure, che cosa ne hai pensato di questa puntata? Ma guarda, l'ho sentita tutta e dicevo, mi avete quasi spaventato perché ne sapete tantissimo, veramente. Si vede che tra milanesi in Liguria e torinesi in Liguria ne sapete più dei liguri, veramente. Ho una domanda per te. Sei mai stato a Varigotti? Beh sì, è fantastica, ecco, che dire. Ecco. Poi io sono della Riviera di Ponente, quindi mi piace molto Varigotti, ma anche Lazio è molto bella. Ecco, credo. ecco. Sì, sì, beh, era che così, dire. Solo per sbattervelo, sì. In poi, faccia. Poi ti giuro che non parleremo tutto il tempo esatto. di Varigotti. Okay. Beh, insomma, la Liguria è bellissima. Ma infatti, Antonio, la prima domanda che ti facciamo... prima ancora sì? di chiederti cosa significa essere autore a Sanremo, cosa vuol dire essere ligure? Allora, essere ligure è una bella domanda questa. Allora, Gino Paoli diceva che un ligure prima costruisce il muro della casa per non farsi vedere che la costruisce, poi continua a fare il resto, no? Ok. cioè, non lo so, un po' mi ci ritorno in questa cosa, nel senso che siamo persone magari dalla corazza un po' dura, ma che poi legano legami molto molto forti, quindi devo dire, risultiamo anche abbastanza simpatici quando poi andiamo a lavorare o studiare fuori a Milano, Torino, okay. E ci troviamo molto bene con quelli del sud. Okay. Ma difatti c'è una concezione, secondo me, che sì? non so per quale motivo, quando tu parli del tipo del nord Italia, ora lungi da me a fare assolutamente discorsi leghisti, assolutamente, però quando pensi al nord Italia non so perché non ti viene da includere la Liguria nel nord Italia, a me non so perché, però sì, però è... Quindi il Ligure mi esce dalla Liguria e mi diventa simpatico. No, diventa è un po' più difficile da scoprire forse la sua simpatia all'inizio, come ci diceva Antonio, però io nel però senso... è come un tesoro quando sì, poi lo sì, apri sì, sì, è pieno di doni, scavicchi certo. E poi dopo alla fine ma adesso non siamo più nella pelle per sapere la tua esperienza da autore, perché ti dico, io sarò molto sincera, in questi giorni di festival ho pensato, ma che cazzo sono gli autori di Sanremo, ma che coglioni, e poi ho detto oddio, ma però sì, non è che adesso facciamo di tutta l'erba un fascio, per cui raccontaci. No, è andata così. Io faccio l'autore televisivo e mi è capitato anni fa di lavorare anche a Sanremo. Ho fatto l'autore dei testi di Luciana Vitizzetto a Sanremo 2014. Ah, okay. E quindi io mi sono occupato non di tutta la macchina del festival, l'ho vista però da vicino perché lei era co-conduttrice. Io mi occupavo solo dei suoi sketch, delle sue presentazioni, cose okay. Per lì. Però sono stato a Sanremo comunque 2 settimane, ho dormito all'Hotel Globo, quello col tunnel che ha fatto costruire Celentano per andare direttamente al festival. Spiegaci questa storia. Tunnel Celentano, io completamente scioccata, vai. Praticamente c'è questo Hotel Globo dove infatti stava anche quest'anno Amadeus, Fiorello, dove stanno tutti quelli che fanno un festival, quelli proprio... quelli grossi? Sì, quelli grossi, io vabbè ero lì per caso, comunque vabbè. Anni fa, quando c'era Celentano, che era andato ospite al festival, non ricordo, cioè però non voleva passare tra la folla, ha fatto costruire un tunnel che va da questo globo, dall'hotel, che comunque ha 20 metri dall'Ariston, che arriva nei camerini dell'Ariston. Un tunnel che passa in un sottopassaggio comunque già esistente, e quindi è molto comodo per le prove, per andare. Ma che bello! Che genio! Mitologico. Senti, Antonio, ti vorrei fare un'altra domanda su Sanremo, poi parliamo di Balla coi cinghiali. Però ti volevo chiedere, ma quindi quando tu hai scritto gli sketch per la... o comunque hai aiutato a scrivere gli sketch per la Letizzetto, il tuo brief, diciamo, cioè quello che ti hanno detto di fare era fai ridere tutti, dai giovani ai vecchi? O fai ridere solo una fetta di pubblico? Guarda, sì, sentivo che ne parlavate prima, è davvero difficile e sono d'accordo con chi di voi diceva che senza pubblico è tutto più difficile. L'ha detto Fiorello, l'ha detto Amadeus e ci credo, perché comunque un programma TV senza pubblico è veramente alienante. Sì, ma poi la dimensione del live è difficilissimo secondo me, cioè anche proprio fare la battuta e avere un po' dall'altra parte la risposta del pubblico, per quanto possa far ridere o non ridere comunque quello che hai detto, però è diverso che buttare una battuta nel vuoto secondo me. Assolutamente. Sì. Anche se noi in radio lo facciamo. Noi in radio lo facciamo. Buttiamo però, battute nel vuoto e dove vanno vanno. Esatto. In radio è più così. Sì. Io lo vedo un po' anche con le debite proporzioni, ma un po' come live, secondo me, la televisione, come un concerto davanti a nessuno. Per farvi rendere l'idea. Per il resto non è che ci hanno fatto un brief di far ridere un target o qualcos'altro. Tu comunque sai che l'audience è così vasta, è il pubblico generalista, no? Come direbbe Freccero, che devi proprio stare largo e stai già che devi scrivere un certo modo e poi lì vabbè c'è la sensibilità dell'artista con cui lavori, magari Crozza farebbe una cosa, Luciana Vitizzetto farebbe un'altra, ma comunque ho visto che più o meno tutti i comici si stettano su livello lì volontariamente, io questo non lo so. Vedrai che vai a stare, dice adesso speriamo a Ricky Gervais. Certo. Alla fine ti viene naturale. Sì, assolutamente. Senti, Antonio, tu in realtà sei direttore artistico di Balla coi cinghiali, che è un festival di cui mi ricordo abbastanza nella mia adolescenza, sono stata una volta tanti anni fa. Ma Balla coi cinghiali ovviamente adesso come tutti gli altri festival è sospeso. Sì, è sospeso. Sì, è un festival, per chi non lo conoscesse, che è nato nel 2003, quindi molti anni fa, da un gruppo di ragazzi che eravamo noi, abbiamo iniziato a suonare, a farci un festival per noi che suonavamo, poi pian piano è cresciuto e siamo arrivati comunque a 80.000 persone nell'ultima edizione gratuita, per poi mettere un biglietto e nel 2000 e 19 abbiamo fatto comunque 15.000 persone paganti. Sì. Che poi adesso si è spostato in Piemonte, vero? Non è più... Le ultime edizioni erano al Forte di Vinadio, no? Sì, infatti non so se questo può... Vuoi dare problemi per la puntata sulla Liguria? Mi discolgo. No, assolutamente. Cioè, no. Balla con cinghiale nasce in Liguria, esatto. E anche se lo voleste fare a Tromso, vale comunque prodotto sì. Ligure. Voi tutte le puntate Aligiano della Liguria. Poi lo staff è tutto Ligure, praticamente, anche se c'è poi tanti cinghiali, che lo staff originario, poi tanti cinghiali si sono uniti, ovviamente. Certo. Delle regioni. Ma raccontaci un po', appunto, dalla in maniera un po', quali sono stati i momenti più, diciamo, importanti, epici. Divertenti, epici. Di quello che è stato appunto il Ballaco Cinghiali, che per chi appunto non lo sapesse nasce nel 2003 come una cosa tendenzialmente abbastanza piccolina, per poi diventare, a parer mio, uno dei festival italiani più importanti, sì. Cioè sia per la proposta musicale, ma anche mi ricordo che c'era il claim che era tipo Woodstock ma si mangia meglio, no, se non sbaglio. Esatto, come Woodstock ma si mangia meglio. Quindi raccontaci un po', appunto, quali sono stati un po' le pietre miliari o i momenti divertenti o i momenti epici che rimangono, cioè proprio scolpiti nella pelle del cinghiale come momenti importanti per questo festival. Beh, guarda, ce ne sarebbero veramente tanti, sia comici che più epici. Comunque, quando nel 2011 abbiamo fatto 80.000 persone in un paese da 600 abitanti, che era Barbineto, e non c'era più l'acqua, non c'era più da mangiare, non c'erano più sigarette, vedevi la gente che fumava, non so, le Muratti Slim che il cavazzaio aveva trovato dietro in una scatola dimenticata perché non c'era più nulla, sì. è stato veramente Woodstock, sì. Proprio quell'esperienza lì. Per il resto, la cosa che piace è che abbiamo un po' anticipato tutto il trend della musica di adesso, non solo noi, tutti i festival indie o italiani, per dire, guarda la scaletta comunque di Sanremo di quest'anno, tutti un po' gli artisti che poi arrivano alla ribalta sono passati da festival come il nostro, sì. Lo Stato Sociale, Sfere Basta, la rappresentante rivista, sì. I vari Easy Pedua, questi della trap genovese, dei giornalisti, cioè tutte persone che abbiamo fatto in questi festivalini che suonavano per poco, no? E poi sono diventati comunque protagonisti. Sono diventati grossi, certo. Sì, 3-4 anni dopo, 5 anni dopo sono esplosi, e ha fatto piacere averli conosciuti ancora quando erano una dimensione. Ma ti vorrei fare una domanda che mi sono portato, che mi porto da dentro da quando circa ho 17 anni, forse 16. La mia domanda è la seguente: perché secondo te, Antonio, l'Italia ha sempre avuto così tanti problemi nell'organizzazione di festival strutturati? Ora io ti faccio l'esempio del Primavera o del Reading Festival, giusto per prenderne due a caso, ma cioè per dire, come, perché in Italia probabilmente è l'unico paese d'Europa che non siamo mai riusciti ad arrivare a una dimensione di quel tipo, e soprattutto per fortuna che ci sono i festival, come dici te, più piccoli, che sono un po' quelli che vanno a scoprire le novità o anche a creare un po' la cultura del festival in Italia, però sempre una dimensione diversa da quello che è se tu pensi al festival internazionale, ora lasciando fuori il Coachella che probabilmente è un'altra cosa. Cioè, secondo te qual è il problema o magari il non problema, nel senso magari ci piace che siano piccoli, che siano contenuti e ci va bene e ci fa benissimo così, cioè secondo te qual è la questione che non ci ha mai portato ad avere uno Ziget, ad avere un qualcosa di simile, nonostante, cioè la voglia di musica secondo me c'è, la voglia di sentire l'esperienza di vivere il festival sia per la musica che proprio per l'esperienza comunque c'è, perché comunque c'è una marea di italiani che poi vanno all'estero per fare questa cosa, cioè ti sei mai chiesto questa cosa e soprattutto ti è mai passata magari per la testa anche un'eventuale soluzione a questa domanda che mi porto dentro da 13 anni? Aiutalo tu, Antonio. Guarda, è una bella domanda, veramente, perché comunque è più che una domanda, è proprio un problema con cui si riscontrano tutti i festival, i booking, perché ogni festival comunque magari vuole crescere, no? Eppure Ballaco Cinghiale a un certo punto è dovuto passare da 80.000 persone a 15.000 per problemi di gestione, e credo anche perché non c'è molto supporto da parte delle istituzioni, c'è sempre un po' un problema, diciamo la verità, perché comunque se non fai le cose comunque crei meno problemi. Sì, certo. capito? O hai proprio un aeroporto, un hangar, come era l'Heineken Jamming Festival, sì, però era un festival molto scarno. Dove sì, c'era un palco sì, e basta. C'era un palco solo, no? E con prezzi dei biglietti altrimenti, anche abbastanza alti. Quindi... altrimenti c'è sempre chi sorge il naso, insomma. Sì, è un problema. Infatti vedo che la tendenza è fare il festival boutique, no? Come si chiama, sì, non sì, più sì, un sì, grande sì. evento. Cioè sono finiti tutti l'Arezzo Wave, il Rototom Transplash, il grande evento esatto. reggae, al quale noi ci siamo ispirati anche, no? Per fare ballate cinghiali, ci andavamo da ragazzi... avevamo 18 anni così, era fittissimo, a Osoppo, in provincia di Udine, sì. ha dovuto spostarsi in Spagna, perché comunque, non abbiamo una cultura, nonostante il pubblico italiano sia un grande fruttore di live, e sinceramente non ne vedo la soluzione, e io per primo mi trovo meglio a fare un festival a quel punto più piccolo. Sì, anche se io amo il festival gigante, mi piacerebbe fare una specie di, a chi non piacerebbe, fare un Coachella, no? Fare un certo, certo. che diventi popolare, però non ci metteremo certo. mai. E poi secondo me c'è anche un tema di un po' di cioè, non so come dire, di impreparazione non dal lato dell'organizzazione, secondo me, ma dall'attesa appunto delle persone circostanti. Cioè, viene sempre visto come un problema per la zona circostante. Cioè, mi immagino che se tu a Vinadio appunto porti 15, 20, 30 mila persone, le persone attorno non lo vedono come un'opportunità di avere persone esatto. che si muovono comunque in una zona che ora non so come sia effettivamente Vinadio, ma non me la immagino tipo Las Vegas. No. Cioè, non riescono a vedere il bello forse di questa cosa qua, ma lo vedono sempre, come dicevi tu, un problema. Sì, non vedono l'opportunità anche di avere per 2 o 3 giorni così tante persone che appunto ti vanno a prendere le muratti che hai e le moretti dietro. Anche esatto. le moretti anche e le moretti esatto, sì esatto. sì sì, però è molto difficile, quindi effettivamente forse come ci dici tu tendiamo a tenere la dimensione un pochino più piccola, cioè penso a Vasto, penso allo Ipsy Rock, cioè nel senso comunque sono dimensioni molto più ridotte rispetto a un festival medio in Europa, ecco. Sì. Forse sono un po' più cool, cioè abbiamo puntato più su quella cosa un po' più cool del festival che ha magari 1 o 2 artisti più grandi e poi ha un po' di artistini un po' più piccolini. Sì. E allora, cioè no. se pensi al festival su Milano, tu pensi al Miami che è microscopico, certo. cioè nel senso proprio a livello di estensione, di dimensione, sì. di palco e anche di persone che ci possono entrare, al netto di quanto poi effettivamente le persone ci stiano o non ci stiano sotto i main stage, però rimane comunque una dimensione tendenzialmente piccolina. Sì. Sì, sì, sì, ma lì è un problema, è più molto umorale, no? La recensione del festival. Ad esempio a Bardinetto negli ultimi anni era così, c'era molti commercianti che erano contenti, che come dire, erano d'accordo, e poi c'erano 4 magari anziani, ma non solo per il ballo Cinghiali, ma per la discoteca a Varigotti, che ne so, per stare in tema, o per capito, nel senso che magari tutti sono d'accordo, poi 4 anziani che hanno la casa di vicino dicono che c'è rumore alle 11 e i vicini lo chiudono. Certo. Ma infatti, tornando al tuo essere ligure, io a questo punto ho una domanda. C'è uno stereotipo in cui ti ritrovi esattamente, che dici vabbè, ok, è uno stereotipo, però è mio sul ligure, dico. Tanti ad esempio, vabbè, il pesto, no? Dici bene, il pesto ogni tanto lo devi mangiare, e io lo preferisco a cibi più elaborati, anche quando vado in giro e la superiorità gastronomica è netta, io difendo comunque il pesto, che alla fine è un po' di tosto. Cioè, ti possono mettere davanti parmigiane, ravioli, però tu comunque no, col pesto ci vai giù. Sì. Ci vai giù pesante e ti difendi anche alla grande, devo dire, perché comunque magari è appunto un po' l'unico, però magari un prodotto top, però secondo me c'è una bella riuscita a difendermi in una maniera assolutamente onesta. La focaccia, poi chi non ama la focaccia, no, diciamolo, la focaccia. Questo comunque è un tema grosso, perché io non capisco perché la focaccia veramente si trova solo in Liguria buona, è assurdo, come i panifici a Milano io non trovo una focaccia. No, a Milano c'è un posto, c'è Fiori di Ponti, che è Santa Margherita, il triplo che è Santa Margherita ed è quello di Santa Margherita. Però sì, effettivamente sulla focaccia siete assolutamente imbattibili, come probabilmente sul pesto e come probabilmente la regione con più milanesi trapiantati. Mm-hmm. Ma cioè, il vostro rapporto con con i milanesi, cioè voi liguri come li vedete? Vabbè. Li vedete come, vabbè, siete questo... come i vecchietti che non vogliono il balla coi cinghiali, o li dite vabbè, capisco che muovono l'economia o non muovono l'economia, li odio, li voglio affondare tutti quanti? Ma ci si scherza molto su quello, eh. Sento che prima parlavate di del movimento estremista ligure, no? O anche di Forza di Riso, che era uno sketch di Balbontini e Ceccon, ecco, eh? Esatto, giusto, che scherzava proprio su quello. C'era un tedesco o un milanese che chiedeva aiuto dei bagnini, dei baristi, e loro erano i baristi o i bagnini liguri. Che noia, ce n'è sempre uno, cioè, e lo prendevano sempre male, non avevano mai voglia di aiutarlo. È un po' è vero, nel senso che comunque torniamo al discorso iniziale, che magari il ligure, diciamo, è un po' borbotta. Ah, stiamo parlando di stereotipi, diciamo. Sì, ovviamente. Sì, assolutamente. Massimi sistemi. Abbiamo messo un massimi disclaimer sistemi. Qua. Stereotipo, infatti, stereotipo. Infatti che si illumina. Però per il resto magari c'è anche l'hotel vecchio, il bar vecchio con gli infissi, quelli di alluminio dorato. Ok, no? Sì, sì. Cioè, quindi questo crea un po' di repulsione, no? Verso il milanese, il torinese, che insomma non c'è voglia di accogliere. C'è anche un detto di questi qua, di queste battute, che dicono: ma perché non ci mandate un bonifico, ve ne state a casa? Milanesi. Bellissimo. Ecco, questo è un po' il mood. Bellissimo. Bene, grazie mille Antonio per il tuo tempo. Ti vogliamo fare un'ultima... No, posso fare prima una domanda prima di lasciarlo andare? Solo certo, una... cioè, ormai certo. Federico ti ama, sì, sì, agli occhi e a cuore. Non so come... No, un'ultima domanda, cioè, che magari è anche questa qua difficile da rispondere, però... Cioè, qual è secondo te la situazione, come usciremo da questa situazione, per quanto, parlo del virus ovviamente, per tutto quanto il mondo del live, dei concerti, ammazza, dei festival. Ti hai fatto la domanda da 90. No, come la vedi, quali sono i tuoi pensieri che ti tengono e dici vabbè ce la faremo, e quali sono invece i tuoi pensieri che ti dicono che palle, non credo ce la faremo, ecco. Sì, la vedo dura, perché ho tanti amici che sono senza lavoro da molti mesi, da un anno ormai, più di un anno, e non se ne vede la luce. Vedete ora la situazione com'è. L'estate, almeno per tutti i festival che li conosco io, non si farà nulla quest'estate. Ho visto alcuni eventi, per dire, ho visto che i Maneskin hanno parlando di Sanremo, hanno fissato le prime date a dicembre, sì. Ho visto una data a Milano di Franco 126 a novembre, sì. Le prime che ho visto, forse, quindi capite che ora c'è l'estate, dove magari una persona che lavora nel live guadagna il 90% del suo stipendio, certo. No, infatti uno che fa appalti, impianti, e si perde anche quest'estate. Io spero solo che diano per ora dei fondi, un altro recovery per gli artisti e per chi lavora nel settore, perché altrimenti non c'è soluzione. E poi sono sicuro che certamente si ripartirà, certo. Assolutamente, sì. Cioè, l'anno prossimo si ripartirà al 100%, però bisogna fare in modo che queste persone restino in piedi, restino... Guarda, restino, se ci vuoi piedi. Come radio live durante il Balla col Cinghiale del 2022, noi ci siamo. Magari, sarebbe un'idea, volentieri. Noi ci siamo, siamo simpatici. Purtroppo siamo quasi milanesi, però ci siamo. Siamo, milanesi, in Liguria, sì. Potrebbe essere anche carino proprio, sì. Milanesi va bene. In Liguria. Vai, no, mi piace. Va bene, Antonio, volentieri. Ti lasciamo con un'ultima domanda che fa sempre un po' parte dei nostri, diciamo... Del nostro format. Il nostro format, che si chiama Opinione Non Richiesta. Sì, esatto. Sì. Noi a tutti gli ospiti, alla fine della nostra chiacchierata, gli chiediamo una cosa che non c'entra niente con quello di cui abbiamo parlato. Okay. Però non ti preoccupare, non è un quiz. Però a te, Antonio, okay. Vorremmo chiederti. Allora, la Sardegna è zona bianca. Sì. Ma tu, in zona bianca, cosa faresti? Cioè, quali sono le prime 5 cose che faresti il primo giorno che ti mandano così in zona bianca? Così, sono troppe. Sì. Tre. Sincero. Tre cose. Sì, sincero. Beh, una festa sulla spiaggia. Va bene. Non sono sicura che possa fare in zona bianca, ma ok. Vabbè, facciamo finta che si possa. Dai, una zona... Campari Orange con amici. Sì, una... è accorredata da una bella sbronza, sicuramente. Okay. E musica fino all'alba, dai, Sì, ecco. No, infatti a mezzanotte, anzi magari alle 3-4 del mattino, pasta al petto. Per... E via, così si va a letto leggeri. Leggerissimi. E grazie Cagliari. Infatti, non è proprio sardo però. Va bene. È Siracusa, è sicuramente più buono il pesto che le Seadas. Non mi vogliano i sardi, ma il pesto è sicuramente meglio delle Seadas. Dai, pesto, pasta al pesto e Icnusa. E Mirto. Benissimo, e Mirto. Dai, va bene, ci sto. E via. Va bene Antonio, allora ci vediamo al Ballo del Cinghiale 2022, facci il nostro stand, ci chiameremo fuori dal comune a Balla con i Cinghiali e via. Okay. Le porzioni di pasta al pesto noi al felici. Tavolo fuori dal comune. Noi grazie. Felici. Grazie mille davvero. Dai. Antonio. Grazie, grazie mille. A voi. Buona serata. Buon proseguimento. Ciao, ciao a tutti. Ciao. E appunto per citare il nostro caro amico Antonio che ci saluta in questo momento, vi lasciamo con un pezzo di Gino Paoli. Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Senza fine tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere. Senza fine, la la la la la. Ah vabbè, che piangere. Bello, a me piace sempre tanto Gino Paoli. A me piace tanto piangere, sì. Mi piace. Beh. E lo abbiamo selezionato apposta per voi. Gino, adottami come tua nipotina. Sì, io lo metto sul proiettore, spengo le luci e piange. Bello, potremmo fare una puntata sul piangere. Sul piangere di Marzia. Sì, esatto. Facciamo la puntata su Varigotti. No, ma Varigotti, diciamo più puntate. Ah, ok, puntata una serie facciamo. Una serie tipo Attack on Titan. Esatto. Ragazzi, siamo arrivati quasi alla fine. Ma avete seguito Balla coi Cinghiali su Instagram? Che tra un po' ci vediamo lì. Volate a seguire. Esatto, volate a seguire Balla coi Cinghiali. Che tra l'altro, appunto, come diceva lui, ha portato alla ribalta un sacco di musica che oggi ascoltiamo. Diciamo, oh, ma li conosci quelli? Ecco, loro sono quelli che, oh, ma li conosci quelli prima di voi. Esatto. Ma siamo arrivati a. Le altre notizie del giorno. giuriamo che avremo dei jingle un giorno. Un giorno ce li abbiamo, avremo i violini, i jingle, gli schiaffi. No, avremo anche tutto. Sì, avremo anche la registrazione di Megan Gale che dice l'allegoria blessma. Domani ve lo mettiamo come fact checking della. E per chiudere la puntata dell'allegoria è bellissima, arriviamo appunto alle altre notizie del giorno, che le altre notizie del giorno non potranno che essere appunto, non parleremo di Sanremo. No, forse ormai è andato, ormai è andato. Basta. Sì. Parleremo più di Sanremo e vabbè, vi abbiamo già detto in realtà tante cose oggi, una marea, però abbiamo comunque altre cose. Le altre notizie saremo della molto settimana. Rapidi ma incisivi, sì. Vai. Sabato hanno riaperto i cinema New York. Wow, si ritorna un pochino alla normalità per quanto riguarda il mondo degli eventi nella Grande Mela. E appunto hanno riaperto i cinema con ovviamente tutte le misure dei posti limitati, prenotazione per forza il giorno prima, mascherine all'interno, però è una buona notizia sia per noi che vogliamo uscire e fare qualcosa di divertente, ma anche per l'industria cinematografica che in quest'anno, come sapete, è stata completamente bloccata. Yes, a Milano, insomma in Italia, in teoria dovrebbero... Beh, in Sardegna immagino che siano già riaperti, sì. Però in tutto il resto d'Italia riapriranno in teoria il 23 di marzo. Speriamo, raga. In teoria, perché solo se siamo in zona gialla. Sì. E qui riapriranno col 25% di capienza. Che è pochino però piuttosto che niente, perché... le mie piuttosto. Bravo, Chicco. Assolutamente. Poi abbiamo la nostra amica Perseverance. La nostra amica per altra notizia della settimana. Esatto. Questa è la notizia che ho selezionato io perché ogni due settimane vi darò degli aggiornamenti su Perseverance. Come sapete, Perseverance è il rover che sta esplorando Marte da sola o da solo, da sola asterisco, sul pianeta rosso. E tanto per cambiare, mi fa un sacco tristezza appunto questa povera macchina che gira da solo su questo pianeta sconosciuto, ma la cosa bella è che ha iniziato a muoversi il Perseverance, quindi immaginatevi lui con le sue retine. E la cosa carinissima che mi ha fatto veramente un sacco piacere è stato vedere Perseverance che manda a casa, a noi, le foto delle sue tracce sulla sabbia. Ma che tatto, tipo mamma guarda come mi diverto. Sì, guarda come mi muovo, guarda come mi diverto. Oh. Mi ricordava anche un po' quando ero un ragazzino che tipo facevi le scritte grandi sulla sabbia e poi facevi le foto, tua mamma ti faceva la foto. Ah sì, mettiti lì che è scritto Federico, Percy, bravissimo. Esatto. Ciao Percy. E lui fa le cose, ci sta mandando un sacco di foto. E ricordiamo che comunque Perseverance non ritornerà mai più sulla Terra. Ciao Percy. Sei perso. Perso. Poi altra notizia della settimana. Niente, sono sparite le cheerleaders. Sì. No, non da tutti i football club. Sì, football, American Football Club. Ma dai Redskins, che tra l'altro non so se forse l'anno scorso nel 2020. Sì, secondo me era sotto il periodo Black Lives Matter. Aveva fatto questa grande rivoluzione togliendo dal proprio nome, no? Cioè, dovrebbero togliere appunto Redskins, che appunto sono i pelle rossa. Quindi che si sono un po' ripuliti di razzismo e adesso si sono anche un po' ripuliti di sessismo, perché hanno deciso di dare proprio, dire addio alle cheerleader, quelle con la gonnellina corta che fanno zan zan zan zan zan, e introdurre un corpo di ballo misto. Quindi cioè, ci saranno uomini, donne, bambini, cani. Tutti. No, scherzo. Ma però insomma, cani, sì, dai, sì, mi sì. Sembra un bel, anche perché pare, avevo letto stamattina ma mi sono poco informata, che questa decisione è chiaramente emersa dopo l'ennesima dichiarazione di molestia sessuale, insomma, operata a questo gruppo che di ballo. Che non si fa e quindi dai, speriamo. Evviva i cheerleaders. Il cheerleading. Apostrofo. Sì, esatto. Anche se non si usa l'apostrofo. Io grande fan, ho sempre voluto essere un po' una cheerleader. Poi in realtà a un certo punto ho maturato che era veramente difficile fare, una cosa molto difficile, quindi ho un po' distolto la mia attenzione, ma mi sarebbe molto piaciuto fare la cheerleader. Noi abbiamo avuto, cioè io ho avuto un amico, il mio carissimo Lorenz, che saluto, che è stato per un periodo nella squadra di cheerleader della squadra dei Gorillas di Malnate. Ciao Malnate. E chiudiamo queste notizie del giorno con probabilmente un argomento che sarà sulla bocca di tutti da qua a chissà quanto, che ieri sera è uscita la bomba, perché ieri notte per noi è uscita l'intervista di Meghan e il principe Harry, che hanno dato intervista esclusiva ad Oprah negli Stati Uniti. Quindi loro raccontano la loro verità, diciamo, sulla situazione della famiglia reale. Esatto, sulla situazione della famiglia reale, e non ne esce bene la signora principessa. No, la signora no. Regina, la signora principessa. Non ne esce bene, signora non principessa. Bene. No, la sciura Elisabetta ne esce malissimo. Malissimo. Dici qualche indiscrezione di questa, allora, di questa cosa, Marzi. Le grandi indiscrezioni sono: uno, che c'è stato della, insomma, Meghan si è ritrovata ad avere delle conversazioni a Palazzo Reale con delle altre persone che cercavano di capire come gestire il fatto che il buon e piccolo Archie, che doveva nascere, che è il loro primogenito, fosse, potrebbe essere, poteva essere un po' di un po' colorito, un po' troppo scuro. Non è di colore, cioè mixed race, diciamo. Sì. Sì. Quindi il bambino poteva nascere un non po' caffellato, rosso come il padre, probabilmente. Eh? E quindi si sono trovati a gestire questa cosa. E la Meghan era basita by il tutto. E anche Oprah era abbastanza basita sì, by. A tal che... punto che Oprah gli ha chiesto: no, scusa Meghan, puoi ripetere quello che hai appena detto? Scusa, anche Sans. Così esatto, quindi Sans. Mega bomba su Buckingham Palace, che tra l'altro adesso ha Edward all'ospedale, quindi sul punto di boh, cioè non per colpa dell'intervista, cioè nel senso forse. per altri però seguiamo, per altri seguiamo da vicino la cosa, perché potrebbe essere la rivoluzione nella famiglia reale, perché sì. Da una roba così oh shit, anche perché cioè la regina comunque inizia ad avere i suoi anni e si cioè dico nel breve o comunque in poco tempo non potrebbe abdicare o potrebbe lasciare il trono. Suo figlio, dopo i fattacci di Lady Diana e tutta quanta la storia, non so se la sente o non so nemmeno se vorranno farlo diventare re. Quindi a quel punto ci troviamo in una situazione in cui il caro William, sì, giusto? Che ha fatto tutta la vita in realtà prepararsi ad essere re, la sua famiglia perfetta e tutti i suoi bambini sono molto bianchi. Con Kate Middleton si troverà a diventare re, forse, e a quel punto capire cosa fare col fratello che, come sapete tutti quanti, ha deciso di praticamente abbandonare la famiglia reale. No? Abbandonare la famiglia reale! Oppure si ritroveranno come gli zar russi e avremo... Pensavo dicessi come gli zarri! Gli zarri e Marigotti. No, dai, mettiamo un penultimo pezzo. Prima di andare via, non il pezzo, ma prima di andare via, nel senso il pezzo, vabbè, insomma, un altro pezzo che ci è piaciuto a Sanremo. Non metteremo musica leggerissima perché l'abbiamo un po' canticchiata e la metteremo in un altro momento, ma metteremo quei grandi innamorati che ci hanno fatto innamorare anche a noi dei Coma Cose. Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia, anzi come la California. Metà sono una donna forte, decisa come il vino buono. Metà una Venere di Milo, che prova ad abbracciare un uomo. E anche se qui c'è troppa gente, io me ne fotto degli altri e te lo dico ugualmente. Resta qui ancora un minuto, se inverno è soltanto l'estate che non ti ha conosciuto e non sa come mi riduci, hai le fiamme negli occhi e infatti se mi guardi mi quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro, galleggio in una vasca piena di risentimento e tu sei il tostapane che ci cade dentro. Grattugio le tue lacrime, ci salerò la pasta, ti mangio la malinconia così magari poi ti passa. Mentre ondeggi come fa una foglia, anzi come la California. Resta qui I'm muovi piano come il basilico al sole sopra un balcone italiano che non sa. Niente. Scusate, c'è stato un grande karaoke qui, un grandissimo karaoke, ce la siamo cantata tutta, è stato bravi molto bello, cose. bravi come cose che fanno finalmente le canzoni che possiamo cantare tutti. E niente ragazzi, posso dire una cosa? Dilla. È giunto il mio momento? Dilla. Oggi è l'8 marzo. Oddio no, il discorso no, non lo vogliamo sentire. Oggi è l'8 marzo. E volevo dire una cosa. Ah, è vero? Avevi veramente il discorso? Certo. Oh my god. Da unico esponente del sesso maschile in questa stanza. Tra l'altro ci bullizza costantemente. Ma non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero. Allora, innanzitutto volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che oggi è la giornata internazionale dei diritti della donna. Oh, non è la festa della donna, perché la festa è qualcosa di... sempre positivo, cioè oggi non è un compleanno, ok? Ragazzi, anche il braccio sinistro alzato. Il destro. Non volevo dirlo, il destro. Okay. No, ma il destro, vabbè, comunque, ho un braccio alzato per dire che è molto più vicino a, per quanto mi riguarda, a il giorno della memoria come giorno che a un compleanno, ok? E vado giusto a dirvi due cose che ci faranno un attimo riflettere, perché questa è la giornata in cui... è come se fosse il checkpoint annuale di quanto siamo diventati bravi e di quanto siamo migliorati. Quindi non c'è proprio niente da festeggiare, se non semplicemente vedere quale passettino siamo riusciti a fare in più rispetto all'anno passato. Vi dico solo una cosa. Le donne che ricoprono il ruolo di docente universitario sono solo il 24%. Nel 2018, in Europa, il 31% delle donne erano costrette ad una posizione lavorativa inattiva a causa di responsabilità familiari e o assistenziali. La percentuale degli uomini era il 4%. Nel 2018, solo 6 donne su 10 hanno concluso il percorso di uscita dalla violenza nelle case di rifugio con esito positivo. In Europa, nel 2018, le donne hanno guadagnato in media allora il 15% in meno degli uomini. Fanculo! Il 16% della popolazione italiana pensa che, in contesto di assunzione, il datore di lavoro dovrebbe dare la precedenza agli uomini rispetto alle donne. Questi sono solo alcuni dati che ci fanno riflettere su quanto questa situazione sia assolutamente inaccettabile, come dire. E quindi sì, festeggiamo la giornata dei diritti della donna, ma ricordiamoci che siamo ben lontani da quello che vorremmo effettivamente raggiungere. Quindi tutti quanti nel nostro piccolo impegniamoci a fare un passettino, perché queste percentuali ogni anno, anzi sarebbe bello ogni giorno, migliorassero un pochino, ecco, tutto qua. Grazie Chicco, veramente non ce l'aveva detto, no. Però sì, oggi è la giornata per i diritti delle donne e pensiamo sempre che in realtà noi siamo in una società abbastanza privilegiata, per quanto ci siano ancora delle differenze, soprattutto nelle posizioni di potere. Però sì, probabilmente in altri paesi ci sono ragazze, ragazzine che fanno fatica anche ad andare all'università o a studiare. E insomma, questo è un giorno buono per ricordarcelo. Sì, quanta strada ancora dobbiamo fare, ecco. Quindi ancora molto. Festeggiamo, ma piccoli step alla volta, anzi sarebbe bello grandi step alla volta, però impegniamoci in questa direzione tutti quanti, maschi e femmine e X. Ottimo, grazie ragazzi. Probabilmente il mio microfono si è sentito lontanissimo per tutto il tempo. La prossima volta non dite, ce ne siamo accorti. Ditecelo più forte. Però Marzia c'è, Marzia è qua con noi. E raga, mi dispiace perché ho fatto le belle battute. Era bellissimo. Ma secondo me si sono sentite. Io spero dai. Che tutta la questione di East Nizza si sia sentita, perché io ero divertitissima. Perché se no si sentiva solo. Esatto. Bene, va quindi bene. Vi salutiamo. Ci vediamo tra un paio di settimane. Grazie, ascoltatevi tutte le canzoni che abbiamo messo oggi in loop. E ora ciao. Non andate in Liguria perché non si può. Andate a Varigotti. Quando si potrà? Ma quando si potrà andate, perché Varigotti è bellissima. Perché la Liguria è bellissima. Ragazzi, e vi salutiamo con ciao. Una capolavoro. Amore. Ciao. Di Tenco. Buonanotte. La solita strada bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Grigie come il fumo, in un mondo di luci, sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo, e non capisci niente, aver voglia di tornare da te. D'amore, già amore, già amore, già amore, già amore, già amore, già. Non saper fare niente in un mondo che sa tutto, e non avere un soldo nemmeno per tornare.